sul canale 10. Allora, c'è nessuno? Pronto? Va bene, vediamo se c'è qualche altra persona che vuole entrare. ma mi sembra che non sia nessuno. Claudio, per la prossima volta sappi che le cerniere le prendono, poi via Bugino te l'hanno, qua te ne vuoi. E via Bugino dopo. Da Picco, Picco che è quello che c'è via Bugino alla fine. Già. Bisogna cambiare i buchi, no, non vanno bene. Avevo già provato io. Capito? Non faceva. Non faceva, bisogna cambiare i buchi, poi quando sollevava il tappo si vedeva, allora l'ho comprato originale. Non corrispondono, devi comprare quelli della Cesame. Però non li vendono, capito? Non li vendono, maledetti, ti vendono tutto il tappo. Però se, no, questo di mio cugino c'ha tutti i ricambi, di quelli che quelle cose che tu dici hanno i ricambi. E io ne avevo cambiate alcune volte, lo sai, io dico me l'ho dovuto togliere, con l'amore l'ho dovuto tagliare perché non svitava. Era talmente ossidato che non svitava, ho provato anche a mettere il CRC, niente da fare. Poi già lo sai, sotto per le mani a fare forza, era un casino. Ah, ti ho pigliato la mola da sopra, lì, secondo te si è paccato. Ma tu cosa hai messo i bulloni, no? Sotto. Devi mettere le rondelle di plastica, perlomeno il mio è così, c'ha le rondelline di plastica con i cavallotti, o si chiama quelli affari a farfalla di plastica, che non le fa niente. Io li ho tolti, li ho svitati a mano. No. Claudio, anche il mio è così, ma no, lo svitavo, non erano incrostati, non lo so, c'era un nome di tempo, quindi ho fatto forza, guarda, tutte le maniere, ho provato con la pinza, ho provato, e viene male anche perché c'era la matrice a fianco, uno veniva a chiamare, quindi da sopra, con la mola l'ho tagliato subito nei scivoli, l'ho tagliato la testa, tu che l'hai fatto tutto. Hai fatto prima, il mio olio è 4-2-3, acciughe e maionese. Ma dimmi tu, Natalino, che lo chiami le scorradio? Che lo chiami? Così la volta buona, almeno si fanno le misurazioni a vedere. Cosa è successo? Ditelo a me, vi difendo io. Ecco, cadi tu vai. Dov'è? Tra giuro che hanno bisogno c'è la mitica. Eia, e te l'ho detto, io sono un istigatore, quindi. Cosa è successo? Cosa gli hanno detto che li chiamano l'escoradio? Oh, vabbè. Claudio, a proposito, il microfono bene, Paris. Iluzzo, no, toccare. Eia. Eia. Capito? Mi aspetta che te lo... Ti passo a Natalino, aspetta. Parla a Natalino. Giornalista rimane, si mi chiama Lesco Apostoli, mi chiama, dice io sono un tecnico, a me non me ne devi dire, mi stai bloccando, oltre la televisione anche il computer, incazzato nero. Allora digli di chiamarlo però, digli che lo chiami, si paga l'intervento, se la pagare io ti do un omologato prestato che è super omologato, che più omologato non ce n'è, poi voglio vedere cosa trovano di anomalo. Un casino è boh. Ma io questa del computer bloccato non l'avevo mai sentita, mi sembra quasi una barzelletta. Mi sembra quasi una barzelletta, boh. E comunque dobbiamo tentare tutto, il filtro, lì. Mai provato, almeno a titolo di curiosità, Natalia. Una sera ci scendo, dimmi tu quando vuoi, al più presto anche. Sì, non ti può rispondere. Per me è quell'antenna che è un casino, troppo bassa, attaccata all'antenna TV, non sta irradiando, è un casino. Se lui l'avesse fatto salire su, noi da lì 5 minuti, io mi porto l'altro tubo, innesto l'altro tubo, tiro sull'antenna, ne metto due tiranti e poi facciamo la prova, perché toglierla. Guarda, ho visto una sentenza della Cassazione, ma si sapeva già, il proprietario del terrazzo è obbligato a farti salire, naturalmente se non ti vuole far salire per obbligarlo devi andare in causa, ed è roba lunga, però non si può opporre, non venuto da là va. così sapevo io, così ho sempre letto. Non si può opporre, può pestare i piedi, si può mordere la lingua, però non si può opporre. Però, ti ho detto, bisogna andare in causa. Ci vogliono soldi, eccetera. È tempo, perché le cause civili durano un bel. Te l'ho già spiegato. Se è condominiale, se c'è un accesso condominiale, se tu devi entrare dentro casa mia, non c'entri. Nel mio caso, ok, io non ci abito nella mansarda. Se io dovessi abitare lì, ok, tu devi entrare dentro casa mia per passare nel terrazzo, io non ti faccio passare. Se c'è un accesso condominiale, allora va bene. No, no, sei obbligato, Claudio. L'ho letto io, quindi sei obbligato a farlo passare anche se è dentro casa tua. Non ne dire, non ne dire. State sbagliando, state sbagliando. Io 8 anni fa ho puntato i piedi con Paolotto e Paolotto antenne non ne ha montato, ha chiamato l'autoscala ed è salito dalla parte esterna del giardino. Hai compreso? Guarda, qua il terrazzo è di proprietà, dove l'antenna è di proprietà di quello dell'ultimo piano, che non ci abita per... No? Io l'antenna l'ho messa lo stesso, io sapevo non si può opporre. Certo, se fisicamente gli impedisco l'accesso al terrazzo con cavi e se disturba proprio, come spiegartelo? Vabbè dai, comunque è così, e basta. Non lo so, è un discorso lungo, perché tutti si oppongono, poi se si va in causa si perde e sei tenuto a farli passare. Non lo so, poi può darci che a te ci sia come che fosse casa tua dentro, mi capisco. È già un casino fare questi discorsi. Comunque te l'ho detto, io voglio vedere, c'ho l'omologatino, quello che è proprio, è un aborto di omologato, però è nuovo di pacca, io glielo presto e mettiamo anche il filtro, vediamo se disturba ancora. Perché lui nella sua, io lo ribadisco ogni volta che lo dite, alla sua antenna natalina non disturba, come può essere disturbi gli altri? Non lo so Marco, ci sarà un perché. Gianni, è un altro discorso, ha detto bene Marco, terrazzo, quello non è un terrazzo, è un appartamento, tu fai entrare la gente in camera da letto, a casa doia, per entrare nel poggiolo, anche se coricato, io non ti faccio entrare, punto, e non va entrato, non ci sono entrati, capito? Perché sopra è casa mia, c'è tutta la mia roba e non c'entra nessuno. Poi accesso al terrazzo, non c'è quello, non è un terrazzo, è un tetto, non è un terrazzo, ok? E quando hanno cambiato le antenne TV centralizzate è venuta l'autoscala, ha posizionato l'autoscala fuori dove ci sono i posti auto e sono saliti con l'autoscala e hanno lavorato in facciata, tant'è vero che le antenne da dove erano prima, perché erano nel mio tetto dove io ho messo adesso le direttive, le hanno tolte da lì e le hanno messe all'angolo della facciata condominiale, quella è facciata condominiale e da lì hanno cambiato le antenne. Ma informati, io l'ho letto su internet, è una legge che c'è, che praticamente loro sono obbligati a farti passare anche se è dentro casa. Chiedilo a Antonio Tilocca, che lui ci aveva praticamente la scala che saliva su al tetto, ce l'aveva dalla cucina, saliva su e andava sul tetto e doveva far passare la gente, perché più che danni non si poteva passare. Invece da me si può passare dalla facciata, prendi l'autoscala e passi, capito? Non è come stai dicendo tu, l'ho già fatto, ti sto dicendo l'ho già fatto e non mi hanno portato in causa. C'erano tutti i mobili, c'era tutta attrezzatura, c'era tutta roba che io non volevo che entrasse nessuno, non c'è entrato nessuno. E così, punto e basta, lo già devi andare in causa. Non è un terrazzo, non è un passaggio, lì c'è un appartamento, non c'è nei passaggi lì, no. Tu devi bussarmi la porta di casa mia e io devo far entrare, capito? e a casa mia non c'entra nessuno, a notte non c'hai un mandato, allora entri, capito? Non ce n'è accesso da me, quello è un tetto e non c'è nessun accesso. Quando ti ho detto Pavotto ha sostituito le antenne 8 anni fa, c'era l'amministratore, le ha fatti, ha chiamato l'autoscala e sono saliti con l'autoscala a casa mia, non c'entri, casa mia, non è un accesso condominiale, è casa mia, non c'entri, capito? Evidentemente dove abitava Antonio, questa scala, aveva l'accesso per salire sul tetto, da me accesso per salire sul tetto non ce n'è. Ma io ribadisco che lo metto su internet e te lo stampo, se lo trovo te lo stampo e te lo faccio leggere, che sono obbligati, anche se tu c'hai l'accesso in casa, sono obbligati a farti passare, punto. Vabbè, sarà punto, però c'è la virgola, casa mia non c'entra, se io sono a casa tua, al campanello, tu c'hai, sei addormentato, c'è qualcuno addormentato in camera letto, deve entrare dentro la camera da letto per andare al terrazzo, tu lo fai passare. Claudio, la legge è quella, se poi tu non lo puoi far passare, cosa, ti crei anche problemi tu, perché se ti denunciano e questo e quell'altro ti crei problemi. Però la legge è quella, e insisto perché l'ho letto. Anzi, se ce l'ho stampato te lo leggo pure, adesso lo devo cercare, se ce l'ho stampato te lo leggo, ti dico anche che legge, c'è il numero di legge tu. Gianni, tu mi vuoi girare sotto i piatti, l'amministratore ha detto va bene, se no è duro, c'è l'accesso e non ci fai passare non c'è problema, chiamo l'autoscala e lo faccio fare da fuori lavoro, un amministratore condominiale, quindi penso che le leggi le conoscono. Io ho detto no, ne do a nessuno le chiavi, io sono fuori, non c'entra nessuno a casa, ma ci lasci aperto il piano, non c'entra nessuno, perché c'è roba dentro e non c'entra nessuno, ok? E così non c'è entrato nessuno, eppure non mi hanno denunciato, sono passati 8 anni. È un amministratore arrendevole, però non ha voluto battagliare, vuol dire, perché la legge è quella di cui ognuno in casa sua può fare quello che vuole, però per legge c'è un articolo di legge che dice che c'è scritto praticamente basta, io l'antenna, come devi metterla, che devi farti fare un foglio da chi te la piazza, dove c'è scritto tutto quello che ha fatto, eccetera. E ci vuole anche una referenza, lo sai, per legge, una referenza dal tecnico che la piazza l'antenna, deve fare uno scritto. E per legge ci sono tante cose, poi ognuno fa che su gli piace, però se noi ci applichiamo le leggi. Dice anche che se c'è un passaggio all'interno dell'appartamento sono obbligati a far passare. Ma non ce n'è passaggio, l'italiano lo capisci già, passaggio non ce n'è passaggio, hai capito? Di mansarda tu non sei venuto, ci sono le finestre, non ce n'è passaggio, ci sono le finestre, non ce n'è porte per andare al tetto, ci sono le finestre del salone, della sala, tu devi brincare la bacone, ma truccate la mano del gordo, non è un accesso quello, non è un accesso, hanno lavorato tutti, da quando io sono qua, hanno messo la parabola di Sky, hanno fatto con l'autoscala, hanno cambiato le antenne, hanno fatto con l'autoscala, hanno fatto 2 interventi in Igra perché si era attaccato il catrame, un pezzo del rivestimento, e l'hanno fatto con l'autoscala, non ce n'è passaggio, uno è se hai il passaggio, se c'è una porta di accesso, porte io non ne ho, ci sono 2 finestre del salone, tu le finestre non le salti a truncarti la mano di Lugurto, che quella è casa mia, capito? E un'altra cosa, se no stai pur certo che il mio amministratore oggi mi stavano facendo dei lavori sopra il 5° piano, ok, ci sono delle regole, degli orari da rispettare in condominio, stamattina ho iniziato dalle 8 a far casino perché stanno mantenendo un bagno, ok, quando sono arrivato io alle 2 torra martellendi, ma martellando con martello pneumatico, un casino niente, l'hanno avvisato, è venuto, adesso hanno smesso e gli ha detto, ce l'ho io sotto me, davanti a lui, gli ha detto non mi fate tornare perché vi blocco i lavori, ok, qua si lavora dalle 10 a mezzogiorno e dalle 4 alle 6, non prima, quindi non pensare che sia uno che le leggi non le conosce, io non ho accesso accesso, non ce n'è accesso al tetto, capito? Non ce n'è porta che io ti posso consentire, ti apro la porta, no, io ho le finestre nel salone, tu finestre non le salti, ok? Per andare sul tetto a troncarti la mano del gruppo, anche perché il mio tetto è un tetto molto ma molto pericoloso, che è a 45 gradi, quindi non è l'accesso uscì a tutti, capito? Avanti Marco. No Claudio, comunque è diverso il discorso che stai facendo adesso, noi stavamo parlando di uno che deve piantare l'antenna, che se c'è praticamente l'accesso nel tuo appartamento sei obbligato a farlo entrare. Tu adesso la stai girando, hai detto che praticamente non c'è accesso, io questo non lo sapevo. Se comunque uno ha l'accesso è obbligato a farti passare, punto. Però io l'ho letto io con i miei occhi, sono sicuro. Ah, io finitela, è inutile, fate botta risposta, fate parlare a me adesso. Ma io ti ho detto non c'è accesso, non mi capisci? Accesso non ce n'è, ti ho detto poco fa anche, non ce n'è porte. Se c'è l'accesso come, ma magari c'è Antonio, c'è qualcun altro, c'hai tu che hai l'accesso sopra, c'è la porta, prendi la chiave, entri al terrazzo, è un'altra cosa. Ma da me accesso non ce n'è, non c'è mai stato, forse è stato sbagliato, però non ce n'è, perché anch'io devo saltare la finestra per andare nel terrazzo e ho dovuto far fare una scala a parte che io aggancio per salire dove devo salire, capito? Però non ce n'è accesso già, non ne ho di questi problemi. Vai Marco, lo stavi dicendo? No, adesso stavo raccontando la mia situazione, no? Qua la parte dove c'è la mia antenna è di un privato, di quello dell'ultimo piano, cioè ha comprato quella parte di terrazzo, perché sono due parti, no? Vabbè, a parte che l'antenna c'era già il palo, c'era già la vecchia antenna, quindi io non ho fatto altro che sostituire il palo e l'antenna, inutile che si faccia tanto grande, questa antenna, poi per il cavo che passava lì per terra, dice non c'è servitù di passaggio, e vai a spiegare, c'è la servitù, si fidi che c'è, no? Insomma, questa antenna la voleva quasi che la levassi, no? Era tutto... E ha chiesto al condominio, ma il gabbiotto di che? Di mia proprietà condominiale, gli hanno detto condominiale. A parte che volevo dire una cosa, è inutile che a noi ci fanno pagare la quota del lastrico solare da rifare, dei cornicioni da rifare, cioè dobbiamo pagare anche la parte di interesse privato e poi non abbiamo diritti. Così come noi paghiamo il rifacimento dell'impermeabilizzazione, le connessioni eccetera, avrò un certo diritto anch'io. Anche se lui dice, ma non c'è servitù di passaggio, pensa per un cavo che passava in un angolino, si è attaccato a quello. E purtroppo quella gente che, anche se non... Se si punta non te la fa mettere, purtroppo bisogna andare in causa. E dopodiché il giudice darà la sua, obbligherà proprio la persona a farti salire, se no si paga una grossa multa o non lo so se ci sono ripercussioni anche penali. E vabbè, insomma alla fine sono riuscito a metterla, anche perché io quando l'ho piazzata, no? C'era un po' una situazione di anarchia, sai, se ne stava andando il vecchio amministratore, ma a parte quello, no? C'erano i condomini di questo qua, c'erano ragazzi in affitto, io ho detto scusate avete le chiavi del terrazzo perché dovrei cambiare l'antenna, io non ho detto antenna di baracchino, se non ho capito il panico, per cambiare l'antenna, ero con Pomponio, avevo la confezione, l'antenna, prego prego salga, faccia tutto quello che vuole. E ho cambiato l'antenna del baracchino, ma ripeto, c'era già, quindi ho capito perché c'è questo interesse a farla levare quasi. Poi però già si è calmato subito, come ha sentito che il gabbiotto era condominiale, non privato. E comunque ribadisco quello, se noi paghiamo il lastrico solare, anche se il terrazzo è privato, se noi paghiamo il rifacimento a condizioni, qua avremo qualche diritto, no? È ovvio. E vabbè, riguardo a quello che diceva Claudio, sì, io ho sentito che se per accedere a un tetto devi passare in casa di una persona, che di solito è il padrone del tetto, c'è una porta per accedere, se quello non ti vuol far passare, vai dal giudice, ti emette un'ordinanza, che è come un decreto di perquisizione. Cioè, ti obbliga la persona a farlo, però ci deve essere una forza. Certo, se devi scavalcare una finestra a rischio di con situazioni di pericolosità, no, che rischi di cadere o ammazzarti, magari no, come ha detto Claudio. Però se c'è una porta, per esempio mia zia, no, c'ha la casa, poi sali le scale e c'ha una porta e va al terrazzo, ecco. Se qualcuno volesse mettere qualcosa sulla sua antenna, capita nel suo palazzo, la potrebbe obbligare e passa in casa sua. Certo, ci vuole ordinanza del giudice, quindi cause, tempo perso, soldi persi, capito? E comunque, quando ho capito da Claudio, non c'è una porta, quindi non si possono scavalcare finestre, cioè almeno è pericoloso, sono condizioni di pericolosità che forse non lo permettono, dai. Va bene, vai Claudio. C'è già stato un mezzo litigio, ti parlo di tanti anni fa, non ci sono i presupposti per poter accedere. Io posso accedere che sono il proprietario, perché quella parte di dove abito io, quindi tutto il perimetro, i 70 metri quadri del mio tetto sono i miei, quindi io posso accedere, gli altri no, perché non ci sono i presupposti, c'è solo pericolosità. Questo problema è deciso tu, a me mi è successo quando ero in via Pascoli, ok, 5 piani, quello del quinto piano, c'era praticamente la scala a salire normale, quindi un altro pianerotto, quindi un sesto piano, dove c'era la porta per accedere al terrato, tutto in piano, come quello di Gianni. Gianni ha fatto la stessa cosa, a favore dei borghi, si è fatta la chiave, ha montato l'antenna. Io no, io sono andato da quello, l'ultimo piano, ho detto, senta, io devo montare un'antenna. Dovrebbe montare questa antenna sul terrazzo, nel tetto, nel terrazzo, penso ci sia un terrazzo, non lo so, se andiamo a vedere, il terrazzo è il mio, Edu, il terrazzo è il mio, non perché effettivamente era il suo perché lui c'ha l'ultimo piano più il terrazzo, perché è edificabile il terrazzo, ok, si può costruire un altro piano, sempre il suo, c'ha l'aria lui, no, ha comprato anche l'aria. E mi ha detto, dove non è stato un terrazzo, se andiamo a verificare le faccio vedere anche dove, così c'è lei. No, nel mio terrazzo lei non deve montare assolutamente niente. Ho detto, va bene, questo era un ex maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, rincoglionito che non viene bene a dire. Ho detto, va bene, d'accordo, ci sentiamo, arrivederci. Ho telefonato l'amministratore e ho detto, senti, io ho questo problema, non voglio diventare cattivo perché sto appena arrivando qua, quindi non mi costringere le maniere furte, ma ho detto, cosa è successo? Ho detto, così, così e così. Va bene, mercoledì facciamo una riunione di condominio, portati tutta la documentazione, vengo io, una persona molto molto in gamba con l'amministratore di via Pasqua. Mi ha detto, portati la documentazione e vediamo, così la signor Solinas, perché si chiama signor Solinas, le facciamo vedere tutta la documentazione e vediamo cosa ci dice. Arriviamo al mercoledì, abbiamo fatto la riunione, dottor agganzandosi con l'amministratore, ho detto già al signore che il terrazzo è il mio e lui non piazza assolutamente nessuna antenna. Li gioco bisciardo. L'ha detto, lei è convinto che io non piazzo nessuna antenna? Sì, convintissimo al 100%. Ho detto, va bene, non si preoccupi, io sto andando via, per me la riunione è già chiusa. Ciao a tutti, arrivederci, me ne sono andato. Ho fatto ma passare neanche una settimana, ok, ho telefonato alla postale, che c'avevo un amico che adesso è in pensione, è intervenuto alla postale, il giorno dopo c'avevo l'antenna sul tetto. Eia, e beh, hai evitato anche l'eventuale causa. Comunque, per dire, no, se il padrone del terrazzo avesse abitato nel suo appartamento, no, anziché affittarlo, io gli avrei chiesto, devo cambiare antenna, in questo caso del baracchino. Lui avrebbe detto, no, a me proprietà privata non ci sale, avrebbe detto la stessa cosa, e io sarei, siccome non ho conoscenze nella... nella postale, in teoria sarei dovuto andare in causa, però io non avendo soldi non sarei andato in causa, capito? Avrebbe vinto lui, avrei fatto come facevo sempre, avrei messo il baracchino in macchina, l'antenna veicolare, e sarei andato a San Francesco, lì dove ci sono le coppiette, come dice Gianni, a modulare, capito? Però se io avessi avuto uno stipendio, un normale stipendio, gliel'avrei fatta pagare proprio, come dire, io l'antenna la metto, capito? E tu, Claudio, hai avuto culo perché conoscevi gente, capito? È sempre così comunque. Vedi, per esempio, mia zia invece no. Noi abbiamo il terrazzo che era di nonno, ex terrazzo di nonno, che è di proprietà nostra. Quando c'è qualcuno che vuole piazzare l'antenna, che sia parabola, che sia coso, non c'è problema, tenga la chiave, vada, piazzi, faccia quello che vuole. Noi non facciamo storie, perché il terrazzo è di proprietà, non siamo così stronzi, capito? Poi a parte che adesso non ci sono più antenne perché hanno messo la centralizzata, ma mia zia non ha mai fatto storie. Posso piazzare l'antenna? Prego, ecco la chiave, capito? Invece quello, siccome era un ex militare o quello che è, sono i più ottusi loro, capito? Non conoscono manco le leggi che dovrebbero anche conoscere. Ma Marco, qualche giorno con calma te e Gianni vi porto, vi faccio vedere. C'è pericolosità, capito? Non ci sono i presupposti di aprire una porta, ci sono 2 metri di finestra, ok? E se scivoli lì, allo Zen di Tagattani, a San Camillo a Tagattani, c'è il tetto a 45 gradi, si è appena umido, sai quanto si scivola? È molto molto pericoloso. Se ci fosse stata una porta ad aprire, tutto in piano, tranquillo, trovi la chiave, vai. Ma c'è molto pericolo, molto, molto pericolo. Molto pericolo. Mi ricordo. Se in ascolto si farà 2 risate. Marco Scorpio, solo a parlare di venire a tararmi un'antenna, a dire dobbiamo salire sul tetto, le mani gli usciva dalla diventavano acqua, le sudavano le mani, perché conosce il problema. E non so, ma il discorso proprio non era quello, il discorso era generale, non era casa tua. Il discorso era che non si può mettere, che praticamente sono obbligati a farti passare, sia il passaggio per salire sul tetto, quello era il discorso. Poi a casa tua sarà un altro discorso, però il discorso che stavo facendo era quello, quello che ho letto io. Marco, voglio rispondere a te, non c'è bisogno che abbia in cuffia le scopote, perché quando ho avuto quel problema con i condotti, mi hanno detto se c'è qualche problema che non ti fanno piazzare l'antenna, chiama lui. Ma hanno detto chiaro e top. Seia. Ma una curiosità già, da te il terrazzo è di un privato che l'ha comprato o è condominiale? No, no, è condominiale, ognuno ha la sua metratura dove poter mettere quello che vuole. Un quinto. Vedi, qua è diverso, qua la parte dove c'è l'antenna del baracchino è proprio comprata da una persona che condomino, che non ci abita, ma è di Dualchi, mi pare, fa il veterinario, però l'ha comprato, ecco perché si sarebbe opposto, ma io ho approfittato che, comunque vi dirò una cosa in più. L'ex amministratrice, che era una persona vergognosamente parziale, faceva le parti, avrebbe fatto di tutto per non farmela mettere, nota. Invece l'amministratore, quello che se n'è andato da poco, ha detto sì sì, non c'è problema, lì ha il diritto di installare l'antenna, anzi, ho detto ma non è che poi me la toccano, mi tagliano, oh no no, la sua antenna è di sua proprietà, non la possono toccare, appena detto non la devo, non la possono toccare, quella è una sua proprietà, sia l'antenna che il cavo, nessuno deve toccarla assolutamente una volta che è piazzata, non gliela possono togliere, capito? Adesso è subentrato un altro amministratore, più giovane, però dovrebbe saperlo. Invece la vecchia amministratrice che risiedeva qua sarebbe stata una vera carogna, una vera carogna. E vabbè, mi è andata bene, dai. L'unica cosa che dovevi fare è fare come ho fatto io, il cavo invece di farlo passare in terra, uno che si scalda col caldo eccetera eccetera, io l'ho messo praticamente nel tirante, l'ho fatto scendere dal tirante sino a giù, e non, praticamente il terra non passa perché se devono asfaltare, devono telecamera nel terrazzo, eccetera, eccetera, così non disturbo. Quello è la stessa cosa della facciata, perché a me, vedi, quello me l'hanno detto, quello l'amministratore mi ha detto: Claudio, tutto quello che vuoi, fai tutto quello che ti piace per casa tua, però non voglio vedere i cavi in facciata, mi ha detto. E allora i cavi io ce li ho dentro un corrugato abbastanza grosso che scendono, che esprimono, e ce ne hanno tanti, adesso ce ne sono solo altri due. Anzi, adesso ce ne sono due, sì, due, prima ce ne erano 7-8 e sono dentro il pluviale, capito? Quindi non si vede niente, però gli ho detto: attento, io all'altezza della mia finestra foro il pluviale dell'acqua, una finestrella, e mi porto i cavi dentro col corrugato, eh. Ah sì sì, quella è la parte tua, lì lo puoi fare, capito? No, io invece di metterla all'interno l'ho messo dietro, non si vede nulla. Legato con le fascette, tu lo sai come ho fatto io, ho legato con quelle fascette grosse e lunghe, e poi ho chiesto anche a quello di su se mi faceva legare la fascetta, me l'ha fatta mettere e via dicendo. E poi passa dentro casa direttamente, non da fastidio di nulla. Io mi metto nella finestra della sala radio. Capito? Però l'altezza della mia finestra, io ho bucato, ho fatto un foro, ok? Scarottato, messo il corrugato grosso che attraversa dal pluviale sino alla mia finestra e i cavi entrano dentro, capito? Però non sono pendoloni in facciata, e i cavi poi sono tutti buttati sul tetto della mia parte però, capito? Non dalla parte degli altri, della mia, ok? Le antenne sono tutte dalla mia parte, tranne la mantova, ok? Per la mantova ho chiesto a quello dell'ultimo piano dell'altra scala, mi ha detto: clama, e cosa me ne frega, basta che non fischi, basta non fischia, senti che ha problemi avvisami che la tolgo. Non mi ha mai detto niente, capito? Ci vediamo tutti i giorni, non mi ha mai detto niente. La mantova è nell'altra parte, ok? Perché dalla mia parte non la potevo mettere, perché i bracci delle direttive la toccavano, che sono molto lunghi, e quindi l'unica antenna che è dall'altra parte, quindi in casa degli altri, è la mantova. Però non mi hanno mai, non sono andato a metterla senza autorizzazione, ho chiesto l'autorizzazione come giustamente si fa, e mi hanno autorizzato, basta. Gli altri sono tutte dalla mia parte, capito? Già. E vabbè, vabbè. Però Marco, attenzione, che il caso di Natale è diverso ancora, perché dove abita lui non c'è accesso al tetto, capito? L'accesso al tetto è dall'altra parte, quindi in un'altra strada e in un altro appartamento. Lì è un casino doppio, Claudio. È un casino doppio, è sfortunato come posizione lui. E non lo so se alzando si risolve o mettendo quell'antenna. Poi non capisco perché un'antenna tipo Game Master dovrebbe disturbare meno. E radiare radia come radia la 5 ottavi. Non lo so, sono scettico. Comunque io gli ho detto: se quello minaccia, in estremis gli do quel baracchino super omologato, che dovrà usare solo quello, sai, perché quando sono minacce di questo tipo meglio adeguarsi, e quel filtro, perché se scusa disturba addirittura col baracchino, che proprio è talmente schifoso che esce un pazzo di radio, però esce lì, diciamo. Vabbè, vediamo, giochiamo l'ultima carta. Ok. E poi c'è il rischio che se sali su quel tetto si sgretano tutte le tegole, sarà vecchio come tetto, è anche una paranoia quella, di pareggioso. Sarà vecchio di 100 anni quel tetto. Ma non credo già, perché c'è una mansarda, quanto mi stava dicendo Antonio, dove abita questo cos'è, giornalista. Però si entra da Corso Trinità, capito? Non da dove abita Natalino, lì accesso non ce n'è, a quanto ho capito io, perché sopra c'è un altro inquilino e accesso non ce n'è, la scala finisce lì, io sono salito, capito? No, già, io non ne ho chiamato di postale, io ho chiamato questo mio amico che fa servizio alla postale, un carissimo amico, ci siamo visti anche avanti ieri, andato in pensione mi pare a febbraio, a marzo, e per sentire appunto cosa devo fare, no? Ho detto sì, al piano, non voglio creare casini, eccetera. Ed è intervenuto direttamente lui che era ancora in servizio. In borghese tutto, capito? Infatti c'era un po' di battibecco, perché quello era un ex maresciallo della Guardia di Finanza, ha detto ma scusa, questo è un ispettore capo della polizia postale. E gli ha detto ma scusi maresciallo, le leggi le dovrebbe conoscere, cioè se qua c'è tanta documentazione, quindi non capisco, poi non c'è nessun danno assolutamente, perché c'è un'antenna verticale, un tubo, non si mette lì, basta, il cavo scende dalla parte sua, infatti fa far fare un cavo dalla parte mia a una via di 50 metri, perché io ho il secondo piano, capito? Comunque niente, la legge è così, hai pienamente ragione, se c'è l'accesso, sottolineo se c'è l'accesso, perché te lo sottolineano molto bene, te lo ripetono se c'è l'accesso, ma c'è accesso non ce n'è, e quindi è una cosa di pericolo, si può creare pericolo, come nel mio caso, non ce n'è, devi farlo esternamente come hanno sempre fatto, capito? Come hanno sempre fatto, anche adesso ultimamente, che vogliono verniciare la parabola di Sky, che è tutta rugginosa, già si vede la strada, perché è nuova, però è tutta rugginosa. Me l'ha chiesto l'amministratore, l'ho detto dimmi quando viene il bianchino, cos'è questo che delle manutenzioni, sale con me, quanto ci vuole a fare? No, lo fa a spruzzo. Ok, allora sale con me, gliela faccio fare, non c'è bisogno di chiamare l'autoscala, no? Capito? Ma dovrebbe imbragarci, vero? Se è pericoloso, a rischio, sai, il tetto è inclinato, non dovrebbero usare un'imbragatura per essere a norma di legge, una cosa leggera, perché se cadono poi chi paga? No, beh, io praticamente lo far salire dove io ho messo la scala, perché il mio tetto è fatto a 45 gradi, poi c'è la mantovana è alta, 2 metri, ok? È sicuramente a 2 metri dall'altra parte, dove c'è la parabola che si vede dall'autostrada, c'è un pezzo che è in piano, proprio sarà un metro, ok? Si può lavorare bene, però per fare quel lavoro lì è chiaro che ti devi imbragare, capito? Ma ci rimango io, se no ve la vernice giù io, ci sono abituato, lì c'era la mantova prima, dove c'è la parabola, c'era la mantova, ok? Quando io poi mi sono spostato in via Pascoli, sono tornato e vedo la parabola, non è posta mia, non è posto mio quello, è dell'altra scala, c'era la parabola, e quando la pongo la mantova, allora me la sono portato dalla parte mia, è andato tutto bene, quando poi ho montato le direttive, la mantova l'ho dovuta spostare, perché i radiali girando, sono 8 metri di bracci, toccavano la mantova, allora l'ho messa dall'altra parte, però un po' più giù della parabola, dove è adesso, capito? Questa parabola c'è un sacco di anni ed è tutta rugginosa, adesso la vogliamo verniciare perché funziona, è centralizzata anche quella, funziona perfettamente, chi c'ha Sky, io Sky non ne ho, c'ho Mediaset Premium, non mi serve la parabola, però c'è l'impianto centralizzato di Sky, capito? La vogliamo verniciare, e l'amministratore gli ho detto mandalo quando ci sono io, mi fai chiamare, dai il mio numero, ci mettiamo d'accordo, però ci devo essere io su, capito? Perché è molto pericoloso. È sempre un casino queste antenne, soprattutto di baracchino, comunque il baracchino è mal visto ovunque, è stato sempre mal visto e tuttora, nonostante il digitale, sono casi di disturbo. Guarda, ma io quello che non capisco, adesso te ne dico una, no? L'antennino, ah, un antennino, antenna PMR, no? È attaccata all'antenna secondaria TV che abbiamo sul terrazzino. Io a tutta potenza, 35, ho premuto la portante, la TV non viene disturbata. Eppure, caspita, La frequenza è 446, sai, lì iniziano a 477 le frequenze TV e non disturba. E il baracchino che è a 27 MHz va a disturbare frequenze di 400 o 500 MHz più in alto, è una cosa che non si crede. Ma tu hai qualche armonica, capito? Lì è un problema, è troppo attaccata all'antenna TV, mica attaccatami, 50 centimetri in basso da Lanzimi, con i radiali che praticamente, i due radiali che spuntano dal cornicione, chiamiamolo così, sono proprio attaccati al tubo dell'antenna. Io capisco che il suo non le fa niente, al suo non le fa niente, non so il perché, però cosa vuoi ti dire? È un mistero, io non c'ho una base magnetica sopra il coso del televisore, sopra le cover del televisore, qua, base magnetica, VU, e quante volte la uso? Non è quella che uso io, perché le PMR, cosa pensi che uso? Eppure non disturbo il televisore, è una cosa, non lo so, è una cosa molto... È stato sempre così, c'è chi non disturba e chi disturba, se avete chiesto. Vabbè, guarda Gianni, quanto era distante Gianni da chissà imbecille di fronte a Edda, eppure c'era attaccata che disturbava. Poi diciamo che la M anche disturba perché l'emissione è più larga, in FM disturberebbe molto meno, infatti in tutta Europa sono in FM, Germania, solo l'Italia è fissata con la M, non c'è nulla da fare, magari in FM sì, magari la portante solo disturba un po', ma molto lo fa l'emissione M, capito Claudio? Io mi ricordo, a parte questo discorso, mi ricordo che nell'85 o 86 avevo preso un B30 da Adriano, ZG B30, una linea retta a 30 watt, no? Avevo la TV accesa, no? Attacco il lineretto, che poi era una cosa ridicola. Premo la portante, solo la portante. Tum! E vedo la TV, schermo nero, scomparso il video. Come mollavo riappariva il video. Proprio facevo un TV e tale. Schermo nero è una cosa terrificante, una cosa allucinante, figurati cosa sparano gli linearetti, poi vabbè era starato, le di fabbrica le buttano fuori senza tarare, poi i pomponi non me l'avevo un po' tarato, allora funzionava meglio, disturbavo lo stesso ma in minor misura, ma quel giorno era allucinante, proprio lo schermo nero mi faceva, una cosa mai vista. Lo riprendi già? Via. E vabbè. Capita, quando si è scalognato, per dire, Natalino, capo in campagna, a chi disturbava, c'era un palo da 12 metri, e andava bene a tutte le parti. E adesso è andato lì e ha avuto solo problemi. Ma lui non c'era più la casa che era del padre, no? E ha tre fratelli, due fratelli ci abitano, ma ce n'è una terza, e se lui vuole può andare a abitare. Ci sono tre appartamenti, capito? L'hanno costruita loro la casa. Però Marco, vedi, può dipendere anche dal baracchino, perché adesso mi sono dimenticato. Massimiliano mi aveva prestato un baracchino a provare di quelli modificati. Disturbavo, crepavo il mio televisore e anche quello degli altri. Capito? Io mai, manco con tutte le radio che ho, mai, anche ad alta potenza, mai ho disturbato. Capito? Quindi c'era questo baracchino, Massimiliano ha detto, provalo a vedere come va, io non lo sto usando, e portano. Ha trovato attaccato, minchia, l'ho staccato subito. E l'ho restituito perché disturbava il mio televisore e anche quello degli altri. Quindi può dipendere anche dal baracchino a volte, capito? E ti dirò che l'Omega è uno di quelli, perché un apparecchio spara forte, che ha spurie, non ha nemmeno il filtrino anti-TVI all'interno per quanto possa servire. Io perché sto usando il 3009 omologato? Questo è una modulazione pacata, non avrà nemmeno picchi di modulazione, credo. C'ha il filtrino anti-TVI all'interno, no, all'uscita del bocchettone, dentro il baracchino, sempre per quanto possa servire. è un apparecchio che esce normale, normale, normalissimo, non amplificato, a meno che non gli metti un come si chiama, un amplificato, no, un microfono. Ma è chiaro che quell'omega va bene, soprattutto in macchina ti puoi sbizzarrire come vuoi, ma a casa ci vuole una cosa omologata, ma non troppo, ma che non sia l'omega, capito? Per esempio andrebbe bene anche, come si chiama, il Geopix 2000, quello frequenzimetro che ho io, quello non fai altro che riportarlo col ponticello a 40 canali, quello nasce omologato, ti rimette il trimmer a metà anziché a manetta, ecco che torna omologato, c'è un bel baracchino, però omologato, capito? Però se disturbi in quelle condizioni, allora si è mai detto che è troppo attaccata, c'è un limite, si è attaccata a 50 cm, no, l'antenna va più in alto, andrebbe dietro e più in alto, di almeno, non so, 1-2 metri, è venuta la va, allora è nata male l'installazione, dai. Solo che se metti un palo lungo devi tirantare, è un macello. Se davvero hanno un appartamento su, gli conveniva trasferirsi con la moglie, magari c'ha pure l'antenna, chi lo sa, magari c'ha l'antenna vecchia che usiamo una volta. E vabbè, dai. Non è vecchia, non l'abbiamo piazzata da poco, 2-3 anni fa l'abbiamo piazzata, c'avrà 3 anni l'antenna. Qui l'avevamo messo in palla 12 metri, tirati, tutto grande. C'è che c'è caduto il trembalato della vernice, adesso non lo ricordo, salito sulla scala, si è rotta la scala che tutti fanno il trembalato della vernice, si è sporcata tutta la tuta nuova, no, per le scarpe da tipo. Oh Marco, lì non è questione di... quello è così, non si può, ci vuole la tua scala, è pesante mi ha tirato su un tubo, il piantone che gli ho dato io, con l'altro piantone che poi aveva lui, la 52 mi, o la 55, adesso mi ricordo, è pesante il tubo, sono pesanti i tubi, a tirarla su in verticale, tanto è vero che si è agganciato il radiale alla mantovana e si è diventato storto, già l'hai visto, ma stavamo rischiando di fare danno, non è facile, capito? L'abbiamo dovuta mettere in verticale per tirare su, è un lavoraccio quello, per poter fare quel lavoro fatto bene, come dici tu, ci vuole l'autoscala, capito? Ci vuole l'autoscala, c'è Natalino, si gioca 100 euro, fa un paio d'ore di autoscala, e tu vedi che si impianta, metti per un bozzo io, perché diversamente non si poteva fare, non hai accesso a nessuna parte, per attaccare un tirante per tenerla ferma, uno ce n'è, tassellato a muro. Massimiliano era nella finestra di quello del secondo piano e io lo stavo mantenendo per i piedi, sono le 9 buccia di giocano. Lo so, sì, lì è... so che magari poi metti, alzi il palo, bello tutto, e poi magari fatti voi lo stesso, perché gli altri hanno antenne strane. E quindi è inutile, ma così è già, aveva un'antenna nuova dove? Nella casa di origine, e la zona dov'era? Dove c'era la pasticceria? No, Filighetto, no, Filighetto, su, dall'altra parte di San Francesco, invece che andare verso San Francesco, ma dall'altra parte, prende una di quelle traversine che c'è. Campagna, proprio campagna. Ah, e c'è un appartamento vuoto, c'è l'antenna nuova, così è, e mi conveniva andare lì, solo che sai, Filighetto, fuori mano, mamma mia, ripiglia la macchina per tutto, a meno che non abbia vicino, che ne so, una farmacia, un tabacchino, un negozio alimentari, le solite cose. No, non vedo solo... E comunque io, sai come facevo? Io quando non avevo l'antenna sul terrazzo uscivo quasi tutte le sere col baracchino e andavo a San Francesco e parlavo con tutti, te lo ricordi? All'epoca avevo l'Albrecht 5008. Io non ricordo che te l'hanno avvenuto in estate e lo fai ancora. Ma com'è davanti pure a lui? Però sai, l'antenna a casa è una cosa molto importante, è una grande cosa. Per fortuna qua nessuno ha detto più niente da tanto, quindi non... Vabbè, lo dico una apposta. Una volta al primo, alla prima assemblea, io vedo male la TV. Ma lo fanno per fare gli giabitoni, mi capito? Però poi non mi hanno detto niente, quindi presumo sia tutto a posto. Poi ripeto, la mia antenna è dietro le antenne TV e più in alto, quindi rispetta perfettamente quella, certo non di molto, più in alto, ma per adesso tutto tace, quindi presumo vada tutto bene. Certo, se comincio a mettere lineari, allora può essere più seccante la cosa. Infatti il lineare non lo lascio attaccato, come diceva Claudio, lascialo attaccato, ma non ne uso. Se volta lo metto nel cassetto, non mi fa più di disturbare, di fare cose che mettano a rischio, capito? Sì, vabbè. Ma stavi non lo stavo cercando, ma se non ti interessa. Che cosa stava cercando? Un linearetto per la macchina. Guarda che c'era Massimiliano 747 che sta vendendo. L'ho visto anch'io. Solo che lui in macchina non modula mai, allora cosa se ne fa? Vabbè. Oh, veda lui, dai, veda lui. È come il KL203P, però in più non autoinnesca. Forse gli hanno messo qualche accorgimento particolare. Comunque è un peccato, mica, che il 747 non venga più venduto. Dice, addirittura ho controllato sul sito Midland Europe, Midland Italy, quello lì. Dice, non è più disponibile. L'hanno finito alla Midland, è una cosa incredibile. Non si trova più da nessuna parte in Italia e gira nemmeno in Europa, mica. Peccato perché era una valida, o meglio, ce l'ha quel ladro in via Carlo Felice, 80 euro, ma non ti innandi. 80 euro è buono. Così il Midland normale, la M48 voleva fare 150 euro in più, mi pare che... Già, ma hai messo l'eco? No, forse l'ho usato con un dito. L'ho usato con un dito, forse. Perché l'eco non c'era prima. Aspetta, no, passa. Prova così, va bene. No, ma cosa stai usando? Il Galaxy con Saletta? E io? Perché sei tornato con questi acuti? Boh, sembra che fai l'eco, beh. Oh, qua è perfetto, mi. Non lo so. Ma l'eco è leggero, mi, Claudio, non dà fastidio. No, ma non è questione di dare fastidio, a me piace la modulazione Gianni, ma ieri avevamo... Ho fatto una perfezione allucinante, anche io sto andando col Galaxy e l'EVB più 5, ma ecco non ce n'è. Prova già. Allora io quando ho smontato il microfono per mettere il CRC ho dovuto smontarmi i cursori, probabilmente li ho mossi, non lo so. Guarda adesso. Dai un pelino in più, un pelino proprio di Mickey Gain del microfono. Guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non tocca nulla già, non tocca, perfetto come abbiamo regolato ieri, sì, l'avevi toccato allora. Perché per togliere la parte superiore ho dovuto togliere i pirulini del coso, del cursore, capito? Sì, già lo conosco, c'ha quei pirulini neri. Sì, no, va bene, adesso va bene, evidentemente l'avevi toccato. Vedi che non lo fa più quel coso, cosa gli hai messo? Gli hai messo lo spray? CRC, perché l'altra volta nell'altro microfono gli ho messo lo spray per contatti, me l'ha tenuto per un paio di giorni e poi è ritornato da capo. Allora gli ho messo il CRC, non l'ha più fatto. CRC è l'unica cosa qua, perché io c'ho il CRC marino, quello 6 più 6, quello marino che usavano nelle imbarcazioni. L'ho avuto anch'io, che bello che era. Quello è buonissimo, anche per i contatti. Ma oleoso è già. Sì, veramente oleoso, ma basta non metterne tanto. Io ne ho messo un CC blu, ne ho messo appena, di modo poi ho fatto muovere il PTT mentre lo mettevo e se la spasso bene. Sì, va bene. No, adesso non lo fa più. Dai, riprendi Marco lì, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, intanto io mi preparo, sono già le 7:30. C'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10? Ma oggi poca gente, dai. E va bene. Eia. Quest'antenna di baracchino, mamma mia. pensa che se fossi abitato nell'ex palazzo di nonno, il terrazzo era nostro, potevamo mettere quadri cubiche, tutto, e si dicevano, queste antenne non ci vanno bene, allora cominciate a levarmi dal terrazzo per antenne TV. Uè, Valerio, sei troppo alto, si sta rovinando la modulazione, adesso va meglio, adesso già va meglio. Poi a Valerio, sì, tutto bene. Se quando si riferì va bene, e poi quando si riferì al lavoro, mamma mia, sto temendo solo questo. Sono qua, mi sto preparando, ciao Valerio. Francesco, lo portiamo adesso 10 minuti. Non è che sto morto, tanto se ne vuole tornare subito lui, capito? Sì. Già lo porta il ragazzo, mia figlia ogni tanto già lo porta, no? Già sta bene qua, lascia il cagnocchio. Riprendi già. Oh, yeah. Io già non mi fido, ma mi dispiace, ho paura che mi scappi. Che questo è autonomo. Oh, yeah. È molto autonomo. Non chiama molte volte, è sordo. E poi l'altro giorno quando sono messo deciso a portare gli spiaggi, mi spiaggia lì a Lido, ma al bar, quel bar Lido, quel bar, non so come si chiama, Titanic. Sulla passerella a casa, questa donna è caduta, ma malamente, soprattutto la faccia, la passerella, davanti a me, che te l'ho col cane, io che non sapevo più cosa fare. L'ho sollevata e che te l'ha tutta spaccata in faccia. Il nonno comunque ha detto che non voleva né ambulanza né niente, che si faceva accompagnare a casa. L'avrei voluto vedere. Cazzo, malamente è caduta. Praticamente è presente quelle passerelle, diciamo, le aggiunture una con l'altra. Una era un po' più bassa dell'altra, lì ha inciampato con la passerella, che tra l'altro si può anche indennizzare. E quello del bar era chiuso, se no gli avrei fatto mettere il ghiaccio, invece era chiuso il bar, non c'era nulla di fresco. Almeno se fosse stato aperto il bar, un po' di ghiaccio ci avrebbe, invece è uscito un barbone e ha detto, no, ancora non è aperto il bar. Stava dormendo lì. Vabbè, però bisogna sempre guardare dove si cammina, mamma mia. Io tengo un terzo dello sguardo avanti, due terzi in terra, per guardare dove, poi con le, può capitare sempre una di strampare, sai, poi con i marciapiedi nostri, eccetera. Ciao Valerio, ben entrato. Poi se trovi l'H a caricare sul marciapiede, come quella lì, mi strappi malamente. E certe volte è capitato, proprio perché non ho sollevato il piede abbastanza. Caspita, basta poco, mi manco te ne accorgi. Infatti poveretta, dai. Vabbè, cose che capitano. Ok, Claudio sta andando a portare il cane, io vabbè fra poco mangio, ma senza fame, non ne ho fame, se me lo chiedi, non potrei anche non mangiare. C'è roba invitante, già si viene la fame. Oggi ho fatto roba di ghiaccia, ma basta linguine allo scoglio, ho fatto la melanzana parmigiana, una bella bisteccona. Io voglio più pasta, voglio pasta in tutti i modi, invece mamma fa sempre quello che piace a lei. Io vabbè mi adeguo, però piace le linguine alla scoglia, ma lo sai quanto sono buone. Mamma mia, ogni tanto me le faceva, ma come ricordo come si fanno più, erano veramente buone. Sì, e l'ho fatte uscito, dicendo. E devi prendere roba fresca, perché quella suggerata non serve. Io ho preso un po' di cotti, un po' di arsedre, un po' di vongole veraci e via, non lo sentite quanto insieme e anche qualche gambero. Già va bene. Sì, quando la fai fresca è non plus ultra, molto molto buona, e non c'è paragone. Io addirittura c'era un periodo che le trovavo in busta, le inguine e la scoglia in busta, le mettevi nell'acqua, le facevi asciugare l'acqua, erano pronte. Persino quelle mi piacevano, pensa, che tutta roba liofilizzata, essiccata. Ah, quello dice porcheria, ma no. Io guardo anche in pizzeria, chiedo sempre se i frutti di mare sono freschi prima di prendere stesso un frisco. Vedi, a San Gabino gli danno frisco tutti di mare, e io la prendo tranquillamente perché so che sono, freschi, li prendono ogni giorno, cioè la pizzeria va, costa un po' la roba, ma c'è un servizio che è allucinante. Di più è buona la pizza. Ehia. Sono anche, hanno il porto, capito, più facile, magari lo prendono proprio dai pescherecci. Invece a molti mettono l'asterisco, no, sulla lista delle pizze, come per dire che sono frutti mare, sono surgelati, no, perde molto, è vero. Comunque diciamo che per esempio si paga molto lì a San Gabino, ma in realtà se uno piglia una pizza media, no, di costo medio, una Coca-Cola e il coperto, non è che spende molto. Certo, se uno comincia a fare un giro di questo, un giro di quello, un giro di calamari rosso, magari paga di più. Beh, noi quando andiamo ai calamari a fritti, a rosso non mi piacciono fritti, li prendo sempre ogni volta. Pizza e frutti di mare, oppure gli amici, che le specialità loro sono quelle, diciamo, le sanno fare tutte bene, però quello dei frutti di mare è proprio una loro specialità, visto il campionato mondiale, con la pizza e gli amici, capito? Una loro specialità. Poi, niente, il servizio, non perché conosca i camerieri, però sono gentilissimi, si avvicinano ogni tanto. Addirittura il piatto che io ho chiesto per mettere tutti di mare in quella pizzeria, loro te lo portano senza chiederglielo. Quando vedono che è pieno, te lo tolgono e ti mettono quello libero, capito? Eia, sì, me l'avete detto che si tolgono il piattino di pieno, se c'è i gusci, no, ed è pieno, te lo cambiano. Eia. Qua io mi accontento di poco anche quando usciamo. Ecco perché dicevo, dovremmo fare la romana. Cioè uno che magari fate tre giri roba, poi fainè, o pizza, o calamari arrosto, io mi mangio per esempio solo pizza, Coca-Cola e coperto. Spenderei pochissimo, penso dai 10 ai 12 euro. E invece Claudio vuole che si paghi tutto in parti uguali, ma io preferivo alla romana. Ah, guarda, quando si fa in greppa si fa così, Marco, ormai. Tu perché non la prendi la roba? Uno se la vuole la prende, poi se non la prende poi ci prende, però è così, quando si fa in greppa si divide in parti uguali e basta, sempre così si è fatto. Oh, io, vabbè, quando ero giovane parlo, si faceva sempre la romana, ognuno pagava quello che mangiava. Per esempio, una volta abbiamo fatto l'errore che è venuto questo ragazzino, si è pigliato i gamberoni, abbiamo pagato un per i gamberoni quello, noi ci siamo pigliati un piatto di pasta con non so cosa, abbiamo pagato un perché c'erano i gamberoni di quello. No, noi anzi era normale fare alla romana, lo sai. Invece pagare in parte, perché se uno si fa tre giri di roba da mangiare, praticamente tu stai pagando la roba che si è mangiato l'altro. Ma la roba si mette in mezzo, la mangiano tutti. Se poi tu non la mangi se la fai tu, però la roba si mette in mezzo, non è che io metto il cazzo di la porzione, non lo metto davanti a me e dico non le mangiare, lo metto in centro, uno si prende la sua porzione e via. Sempre così si fa, io tutte le volte che sono andato in greppa, ogni poi Claudio lo sa, io avevo una greppa a casa di erano 40 passioni, non erano poche, e mangiavamo anche pasta, roba al ristorante, cose, sempre divisa via, ognuno si prendeva quello che voleva, sempre partì. Ma sì, quello va bene magari quando è uno stipendio, ma sai, chi ha i soldi contatti è un problema certe volte a mettere 20-30 euro. Certe volte è capitato il pari di mettere 30 euro, alla fine io avevo mangiato la pizza e la Coca-Cola e ho messo 30 euro per cosa, ma insomma, e vabbè, i nostri sistemi sai perché erano diversi, perché eravamo studenti, avevamo pochi soldi, quindi ognuno pagava la sua parte, quello che mangiava, capito? Bene, Valerio, ti stiamo lasciando in bianco, riprendi. Come 30 euro, ne ho messo 20, non 30, 3. No, non ieri, no, anzi l'ultima volta, non so perché, dovevano essere 20 a persona, me ne ha chiesto 15 Claudio. solo 15, no, ma in passato avevamo speso anche 30 euro a testa, mi pare, una delle prime volte. Non me lo ricordo, non ci faccio caso a queste cose, stiamo per questa compagnia, non apparito di sicuro. Vabbè, comunque, la prossima volta facciamo questo, facciamo portare il conto a pasta, te non ce lo dividiamo. No, vabbè, ormai, se decidete così, è che io mangio poco già. Mangio molto poco, a me a malapena mangio una pizza togliendo anche i bordi. Togliendo anche i bordi, quindi ecco perché. Cioè, mangio molto poco. Non riesco a fare i giri, uno di coso. Io mi ricordo che una volta al Bandiera Gialla era un incubo. Sapevamo che di sera, mi pare, era, ci pagava 10 euro, di sera ci pagava 10 euro e potevi mangiare varie cose, no? E abbiamo parlato di 10 euro, sì, ci arrivavano varie cose buone, no? E io mangiando, ma buono, buono. Poi è arrivata la commessa, la cameriera ha detto, posso cominciare a portare i primi? Io ho detto, come i primi? Ma perché il pranzo non era solo questo? Oh, dice, quelli erano gli antipasti, poi ci sono i primi, i secondi. Io ho detto, io ho pensato, ma voi siete amati, io ero già stato con gli antipasti e quella doveva portare i primi. Insomma, alla fine stavo crepando, ho lasciato una marea di roba. Caspita, capisco pagare di cero, ma caspita, mangiare uscire negli occhi, quello va bene per i mangioni, quelli tipo l'amico di mio zio che si mangiava un porcetto intero e non solo, e poi si mangiava altra roba. Ma la Bandiera Gialla, non so se stia funzionando ancora, Claudio, bisogna dirlo che ci facciamo un salto lì, ci avevo pensato. Che poi quella era un'offerta, una tantum, l'hanno fatto una sera. E c'era un signore anziano, no, ma niente, mi ho visto stravolta, vabbè Sazio, non mandi, come che mi ha detto? Ho detto, ma questa è roba da matti, non si può mangiare tutta quella roba, è uno schifo. C'erano tanti antipasti, tanti primi, cioè vari primi, vari secondi. E io ho detto, aspetta che mi faccio venire un infarto per riempirmi di roba. E perché la volta che siamo andati, vabbè, ci pagava 18 euro dai cinesi. Da walk, siamo andati in Greffa e abbiamo pagato 18 euro a testa, ma c'era ogni ben di Dio, ti potevi servire tutto da solo, c'erano gli attici crudi, tu te le portavi, te le cucinavano davanti e poi te le davano, e c'erano frutti di mare, di tutto e di più, roba che non conoscevi, verdure strane, coscette piccoline che non si sa se erano cosce di topo o che cosa erano, pollo con le mandorle, insomma tutto di bagna tutto grande. Io la verità ho fatto un giro, non ho preso nemmeno tutto quanto, ho preso quattro cantate che posso mangiare a pranzo. C'era questo signore che tra l'altro io conoscevo, era un dottore, e si è fatto tre o quattro volte il giro, ma c'era pure il gelato, ti potevi fare il gelato grande quanto lo volevi perché te lo servivi tu, capito, prendevi il cono, ti facevi il gelato. Questo qui cazzo ha mangiato i sette ganasci e poi il giorno dopo si è sentito male perché poi è venuto la domenica a un pranzo dove c'ero anch'io e ha detto sono andato a quel ristorante cinese e poi il giorno dopo mi sono sentito male. Io ero un grido tra me, ho detto, hai mangiato, hai fatto un quattro ieri, io ero un grido che ti sei sentito male, ha mangiato di tutto. Eia, però il prezzo è fisso, vero? Sempre 18 euro, che mangio che non mangi sono 18 euro. Sì, sì, sempre 18. Walk. Franco, sei tu? Eia, Franco, ciao, dopo tanto, ci chiedevamo che fine avessi fatto. Ciao Fra! No Fra, e dove? Che mi sia, che ti abbia visto o no? Forse non ti ho visto, no? No, non so, io ho sentito, no, io ho una station verde di blu, non è verde, con l'antenna sotto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non ero io allora, ma comunque stavo per venire lì a Ruscello l'altro giorno, solo per un pelo non siamo venuti, lo sai. Lo so. Stavamo venendo, poi questa amica ha detto che ha avuto un contrattempo, l'altra non è voglia di venire, insomma sai come ti succede, quando vuoi fare una cosa non riesci mai a farla, allora non siamo più. Però l'ho visto su Facebook qualcuno che ha registrato, ho visto che c'era Bolt Be Alive, la canzone, cazzo, già mi ha fatto entrare in quegli anni. Sì, l'ho visto, quello giovane. Lo so, no, ma non è giovane, anche lui è da qualche anno, è da tanto anche lui. Ah. Vabbè, comunque io posso ascoltare tutti a casa quei dischi, ce li ho tutti quanti, c'ho anche il piatto, quindi ce l'ho tutti, porto i miei tutti quanti i balli, cazzo, tutti, anche c'ho di Santa Sberarda, Lori Gomez, il coso, poi l'America, tutte queste canzoni qua ce le ho, i 45 G dove ci sono i twist. Ho ceduto all'MP3, ormai ascolto solo quello, non ne compro musica da 2000 che non ne compro musica, ma la scarico. Bene, certo il piatto ha un suono particolare, un suono argentino come direbbe mamma, i dischi suonavano molto molto bene, però purché bisognava avere un impianto professionale, cioè un buon piatto, non come quelli che ho avuto io. E quando il piatto era buono, io li sentivo da Mario Nottari, era una cosa spettacolare, spettacolare. Bene, ho perso il filo. Claudio, sei entrato? Buona, rimasti. E io mi sono salito adesso. Chi c'è rimasto? Tu e Gianni e voi? Dove è entrato Franco? Cosa? È entrato Franco. Franco chi dice? Ah, Franco Viale Sicilia. Franco Ombra. Ogni tanto anch'io devo usare il baracchino, Fra, e questo ce l'ho, bisogna usare, anche perché mi piace parecchio. Anche un bel ricevitore, pure la radio è perfetta, quindi mi piace usarla. Già mi senti lo stesso. No, tu qua sei sempre 7-8, 8 forse, dai. Sì, 8. Niente, io sto andando con 10 watt. Niente, quindi sarà sicuramente un problema tuo. Vai Marco. Oh, ma qua è più forte Franco, molto più forte, fagli un passaggio Franco, controllo il segnale. Che apparecchio c'hai Fra? Siamo in Texas, ma è più vicino a voi, c'è un antennino, io gioco 6 km da via Pascoli. Ragione, vabbè, quasi 9+15, facciamo 9+15 qua, infatti è ottimo il segnale, anche la modulazione. Figurati che già ne arrivi 9:30 e qua è Santiago 7, io sono lontano da lui, c'è l'antennino, voi già pretendete. Natalino mi arrivava a Santiago 9 con l'antennino, adesso quando arriva 9:30 c'ha il segnale come il tuo, Marco, quando è fattibile usare la potenza giusta della radio, capito? Sì, cioè mai. Ma Franco, se io le levo oggi, arrivare forte, già lo sa lui che già li arrivo. basta che stacco la mantova e attacco gli altri elementi, anfra. Figurati, c'è la differenza. No, la stavo provando perché non uso mai con l'antenna a tre elementi, quella che ti ho detto Marco della Eco, che praticamente era della 27 quella, della Eco Antenna per gli 11 metri. E Marco Scoppio me l'ha modificata per i 10, ma è una bomba, è una canonata quell'antenna. Infatti ho fatto male a non metterla nel sistema grande, ho lasciata nel sistema piccolo. La uso pochissimo, capito, perché uso sempre quello grande che c'è la tribanda lì, invece quella è monobanda. Però in 10 metri alla tre elementi della pick up della Mattana Forte, aveva ragione Marco, è proprio così, e quella stavo usando l'altro giorno, hai visto, sono arrivato forte. Va bene, avanti già. Allora ti sei divertito, fra. Ma ci sarebbe voluto essere, perché a me piacciono tutte quelle canzoni. Sì, quella togliamo, ma diciamo tutte le canzoni del fatto di regione, sai, secondo me è veramente pieno, perché hanno fatto la sala grande, vuol dire che hanno anche 70, 80, 90, ma tanti piccoli, c'era la Latino Americano, non c'era Piero, poi sono squadre di ballo, non la Piero, e poi c'era gente che pure l'ha perso. Ma l'ha perso il tetto, no? Ai miei tempi andavo anche io a Lucella a ballare, sono andato parecchie volte. Vabbè, comunque, e io in compenso sono andato a vedere a Porto Leali. Ha fatto uno spettacolo, poi è molto disponibile col pubblico, si fa fare fotografie assieme alla gente, mette le firme, le autografi, guarda, è stato proprio in gamba. Cazzo, ma se ci arrenderò. Io mi sa che non ho colore nella mente, mi ha sorpreso molto positivamente. Sì, me l'ha detto un'amica che è andata, mi ha detto che ha fatto un concerto che era spettacolare, una voce. Ho seguito un programma, ha subito la violenza sessuale, eccetera, eccetera, ha avuto molti problemi. Poi da quando si era ammazzata la mia Martini, lei aveva sofferto molto di questa cosa, perché quando erano vive tutti e due non è che andassero molto d'accordo, e quindi ha avuto sempre questo risentimento. Là. Ma se non si è ammazzata da Eda? Cosa? Questo programma ha detto anche che aveva avuto la violenza sessuale. Non sono fatte di però. Che idea è, pucci. Ma adesso va di moda, tutte vanno a dire che sono state molestate da giovani, ma chissà che sia vero. Ehi, sì, ha lamentato di quel produttore cinematografico, ma... Io chiedo, perché mettere sempre questi argomenti in piazza, dirlo in TV? Se c'è problemi, fai una causa contro di lui, denuncialo, ma perché è sempre andato a dire in giro, quasi vantandosi? E poi dopo 30 anni, ragazzi, dopo ormai anche che non ha avuto quello che ha voluto. Ma mica è un'esaurita, amico, quella è un'esaurita. Magari l'ha allargato le gambe lì per fare successo. È un'esaurita già, non le danno per te, ma per carità di Dio, ogni esaurita pazza che... Ha subito molte cose, bisogna anche capire la gente. Ha subito molti problemi, anche grossi, quindi... Comunque è una bravissima cantante, dopo quello è una bravissima cantante, si incarta se per dire a Sanremo non la fanno cantare, queste cose qua, si incarta un bel, si incarta perché lo vede proprio di diritto. Ma perché si deve incazzare? Vuol dire che non sei competente, vedi che è un imbecille. Cosa? Io l'avrei legata alla poppa della nave e l'avrei trascinata alla produttore sino a Genova. Cretina, può può essere anche una brava cantante, a me non piace, capito? A me non piace. Però lo dico, sarà anche una brava cantante, ma quando era in giuria ad Amici, ok, ha fatto solo casino, capito? Attaccava questi ragazzini che vanno lì a poter far successo, a poter esplodere nell'ambito della musica, lì attaccando, sempre attaccando, sempre attaccando, capito? No, è una cantante così, a me non è mai piaciuta, a parte il fatto che dice abbia, è brutta come non ti dico che cosa, è meglio la scimmia, si veste che sembra un imbecille, proprio calzata e vestita, nel vero senso della parola, mia Martini non era così. No, è un po' rosa per te, no, quello sì, e anche come si pone il trucco, le labbra grosse, rifatte, eccetera, però sì, non è certo femminile, è un po' rosita, però le canzoni che fa mi piace. Che faceva, ora vai, ora mai, ora una bertessa così, perché vinne, vinne, si sente a Marco cantando, penso che... Ciao il baracchino, le mancava mia, Lorena Bertè. Oh, avete notato, abbiamo tutto il bip oggi, abbiamo tutti apparecchi simili, con quella scheda lì. Io vado il gemello di Gianni, poi... Ma io il bip ce l'ho. Sì. Che non lo sento. Giocando col bip, eia, sì, l'unica cosa di questi apparati che non si può levare, ma lì non c'era il tastino per toglierlo, no? Nel gas? No, nel samurai. No, samurai no, nel gas. Ah, ecco, e anche qua è fisso, quello della CRT France aveva la levetta per toglierlo, questo della Proxel invece no, è fisso. Oh già, ma tu l'anello lo tieni inserito? Sì, di solito sì. Oh, a me mi elimina tutto quel, proprio quel che mi piace sentire, e quindi lo lascio disinserito. Ok, perché non va bene fra la modulazione di questo Saturn. Vabbè, certo non è quella originale, standard, però è una bella modulazione anche questa. Già va bene, già va bene. No, già da un po' che lo uso questo. Ehi, già va bene. Ottimo per la truppa. Gappa, gappa. Ah, nel tuo non si può togliere o Marco il bit? No, negativo. Negativo. Nel CRT France, nei 3009 della CRT si poteva levare, qua è fisso purtroppo, ma basta farci l'abitudine, siamo tutti col bip adesso, e ripeto, abbiamo tutti la stessa scheda madre, la IPT 3006, ottima, ottima. No, entusiasmante questo, veramente, l'altro che c'avevo non era così, forse era Ducato, eccetera, questo è perfetto, come l'accendi non lampeggia niente, bello, 27.35, risponde a tutto, è proprio bello, per quello mi piace usarlo, l'altro non mi piaceva usarlo, infatti l'avevo volato perché era un carraggio vecchio, questo è nuovo, nuovo, nuovo, nuovo, originale, come mamma l'ha fatto, le ho messo una palina sua, le ho conservate, adesso è originale come mamma l'ha fatto. Claudio, tienilo perché saranno in via di estinzione. Fra poco è Natale, regalamelo. Tienilo, ehi, se capita l'occasione di pensi che lo tengo. No, è bello anche perché è sopra il DAC, quindi sono uno sopra l'altro, sembra in lineare con la radio, visto quanto è grande il DAC. Ma tu ti immagini che il DAC è il doppio, solo come profondità sono uguali, come larghezza, come altezza è il doppio, proprio due volte alto il DAC, mamma mia. Lo stai scaldando il DAC ogni tanto? No, non ti entusiasmo una più. Cosa? Già, l'ho acceso l'altro giorno, Gigi mi ha fatto addirittura lo spettone per usare lo stesso microfono perché sono invertiti, per non invertirlo, allora mi ha fatto lo spettone. L'ho acceso l'altro giorno da 3 watt e mezzo, ha le valvole completamente esaurite. 3 watt e mezzo, forse neanche ci arrivo. Non si trovano le valvole. Sì, le avevo trovate una volta con molta difficoltà, adesso l'altro giorno che gli ho dato il microfono a Capri, e poi guardava in una scatola che c'è a luce, c'era le 6KDC, mi sembra si chiama, 6JDC, adesso non mi ricordo, perché sono delle valvole fini fini e lunghe lunghe, capito? E le voglio rimettere nuove, ma quello è negligenza mia perché era sempre spenta. È solo per bellezza qua. Adesso invece ogni tanto lo accendo, però l'ho acceso, l'ho provato, esce benissimo, però di potenza 3 watt e mezzo, e ne leverale 25. Non è che sta partendo il finale? No, lascio le valvole, c'è lo stadio finale a valvole, che finale c'è? E le valvole non servono più, sono esaurite. Come il padrone. Esaurito di Vega. Ah, non è trasistorizzato il bello finale. È un mix tra valvole e transistor quell'apparecchio. Tutto trasistorizzato lo stadio finale. Ma è lo stadio finale è tutto a valvole, capito? Lo devi accendere, aspetti un attimo, poi c'è il pulsante che va appunto in RF power, poi c'è play current, insomma lo metti lì, una volta con le valvole sono un pochino calde, la vai in trasmissione, poi la tutta l'altra parte è tutta trasistorizzata, però lo stadio finale a valvole, capito? Quindi le metti le valvole nuove e lo ritorna con i 25 watt su. Comunque quell'apparecchio lì si sposa bene col sidri. Benissimo con l'apparecchio, sembra un apparato radioamatoriale quando parli con quel microfono. Già, non ho bisogno io di... Io te lo faccio sentire anche con l'MB+5, tu lo sai che microfono sto usando, poi ti metto il timer, capito? E non sai qual è uguale, per me non cambia niente, qualsiasi cosa. Esce molto bene con tutti i microfoni, anche col Turner +2 l'ho provato io, ci vuole il Turner +2, capito? Con l'adattatore è lo stesso perché sono tutti diverso connessione. Esce bene anche con quello, con tutti. Anche col microfono normale suo esce bene. L'avevo provato addirittura con un F10, che mi aveva dato Massimiliano, era una bomba, ma bella grossa, bella forte la modulazione. È forte la radio, però quando c'è lo stadio finale a valvole, già lo sai come funziona. Peccato. No, non lo uso perché c'ha pochi watt. Non 3 watt, cosa sì, ci sentiamo, però se entra qualcuno magari da fuori non mi sente neanche. Proprio è ricezione perfetta, a posto, però potenza non ne ha, capito? Ma pensavo di avessi già cambiato le valvole, perché da quando ce l'aveva Daniele aveva quel problema delle valvole così un po' scariche, dai. Oh, Franco, riprendi, te la... Il DAC, il Mark 10, il DAC, Barrasol, il più grande baracchino al mondo, non ce ne sono altri che lo superano. Come è fatto, è proprio bellissimo, ma bello veramente, ogni strumento che c'è. No, già, le avevo già sostituite, ti ho detto, ma tu immaginati, le avevo sostituite subito dopo che me le aveva dato, che me l'ha dato Daniele. Ok, sostituite le valvole, cambiate 2 lampadine agli strumenti, tutto revisionato, tutto messo a posto, l'ho usato, ti ricordi che lo usavo, qualche volta l'ho usato, infatti non sapevate mai cosa stavo usando, Gigi ci ha volato il gabo, ma la stai operando, questo, poi cambiavo, insomma, l'ho usato. E poi è rimasto spento almeno un paio d'anni, lo accendevo così saltuariamente, ma no, non lo usavo più. E l'altra volta che ho messo un po' in funzione i baracchini base, mi sono fatto fare il cavetto da Gigi, l'ho provato con la T230 col wattmetro, da gli scalaventi da 3 watt, 3 watt modulati 3,5, ha detto spegni, e allora mi sono messo il Galaxy sopra, capito? Che c'ha molti più watt, ne ha 25. Vabbè, 10 ne ha normalmente, poi si è modificato, sì. Oh, questo sai, il Galassi è quello che c'è, va a Gigi. No, no, no, no. Gigi ce l'ha il suo, quello che c'è Gigi è Colt. Questo non è Colt, questo è normale. Sì, questo è modificata la potenza e basta. Questo da, allora io sono a metà carrier, a metà power e sta dando sulla T230 10-12. Devo cambiare scala perché in scala 20 me lo manda a fondo scala. Vediamo in scala a 200. Allora da 10 va quasi a 50 watt. Ma faccio il video, te lo mando, non c'è problema. 12 watt, top. Portante bianca 12, mentre parlo va a toccare i 20, se fischio va a 50. Sul parlato sono 25 watt. Attento, in AM, in FM c'ha 50 watt pieni, in banda laterale c'ha 50 watt pieni PFP. Modifica sullo stadio finale, cioè basta, non si vede niente, se tu lo apri è originale, non vedi niente, fatto da un professionista, non si vede niente, la radio attuale è originale, solo che c'è una modifica sullo finale, capito? Ma che finale monterà? Marco, non mi gioco perché l'ho aperto per cambiarle, per togliere le lampadine blu e metterle le sue bianche originali. Ce l'ho messo dentro la sede con i suoi gommini, boh, l'ho richiuso, sto a posto. Non ho manco guardato, non so che finali monta. Ma guarda, potrebbe avere roba tipo, per esempio, l'HR5005, il CR9009, l'altro CRT6009 hanno finali di quel tipo, tipo che danno 40-50 watt in... avrà sicuramente il finale pilota più due finali, o forse IRF520, o... non mi ricordo le sigle, non me le ricordo, e comunque è buono, dai, è buono. Oh, perfetto, è proprio perfetto. Allora qui sono a metà, e ci vediamo in quanto sale, portante bianca, 25 vale portante bianca, quasi 60 modulati, qui sono 25, e così siamo a 10 watt, modulati 25, eh? Ok, al contrario, Franco, è una lavora, no, a badare è andata. Fai anche andare a mangiare con le amiche. E sì, che gli puoi dire che cosa è? Ti gira, ti rimani alla tua vedo. Qua non è buono, perché sono tre volte che viene, questa volta che lo... lasciala andare, lascia si svaga, oh, che lavora, è così, va bene. Venire a picco di modulazione, guarda la radio, va bene, capito, mi hai già, quello non è attacco lineare, già va bene così, questo tanto lo uso la stessa potenza, chiuso il 440, né più né meno. Infatti non c'è bisogno di attaccare lineare. Gianni ti ha attaccato lineare, ma non con lineare, lo sai che tu con lineare non superi Marco da liscio. Vabbè, Claudio, ma è lontano, lui è dalla parte opposta della città rispetto a te. No, ma io lo vedo a Gianni, lui che non vede a me, io Gianni lo vedo. No, tra te e lui ho detto, quando lui attacca arrivi ancora più forte tu con da liscio, figurati. Quanto ti arriva Marco? Marco è 9.33, quasi 35, tu quando attacchi sei 9.30, Marco quando attacca è 9.40. Eh già, ma io te lo dissi il tempo fa, che hai calato moltissimo, e hai calato da quando hai messo quei, hai fatto quel lavoro all'antenna, che non mi ricordo cosa che avevi fatto, capito? 9, tu eri 9.25 prima il tuo segnale, quando attaccavi eri 9.30, adesso invece sì, 9.20, quando attacchi 9.25, 9.27, dai, una cosa del genere. Marco, guarda da te quanto sono, così è liscio, è così attaccato, guarda quanto sono di segnale, quanto cambia. Voglio sapere. Già, io con questo smitter ti direi una balla. Quando attacchi sei uguale a Claudio, uguale. Secondo va. Cioè, fai che Claudio sia 9.30, no? Perché quando è col K è 9.35. Fai che sia tu, già, 9.20 liscio, 9.30 attaccato, 9.30 attaccato, capito? Sì, vabbè, ma comunque mi ha sempre dato un po' le soddisfazioni per segnare. Questo è stato un po' lineare. Avanti, fra. Perché siete vicini, capito? Fa testo lui con me, io posso dare il segnale reale a Gianni. Già, sono 5 punti S in città, non è che sono pochi, nessuno sta dicendo che linea non va bene, però ci sono stati dei periodi, che adesso non mi ricordo quando, che il tuo segnale era molto più alto rispetto adesso. E guarda, ti posso assicurare che il Galaxy è perfetto, dà lo stesso segnale del 440, non cambia niente. Marco è 9.30 liscio, 9 più 30 liscio, e quando attacca è 9.40, infatti, anzi scusami, 9.30 quasi 35 liscio, quando attacca è 9.40, lo stesso segnale c'ha il Galaxy. Abusivi! Mi, il disturbatore di televisioni e di computer. Abusivo, con cuomane! Arrestatelo, arrestatelo! Con un briacone frascico! La sede sta, la sede sta! Siete due istigatori, non deve parlare lui! Oh, fra, come sono da te di segnale? Questi sono 4 watt nudi e crudi. Eia, tu arrivi molto più forte qua, sei 9.10, praticamente 9.15. Ma le altre non hanno la stessa ricezione, ma devi anche dire questo. Oh, ve la dico una. Aspetta, guardami, subito una differenza, vediamo, perché Gianni è più attaccato a lui, quindi Gianni 9. Marco hai detto? Marco 8. E io 6. Guarda la differenza che c'è, mi capito? Claudio! Luia! Abbiamo fatto una parata, che è il 9.5. Pesce Maria, gara! Proprio solo che balla che c'è a radio! Ho capito. No, tu qua sei 8. Mentre invece quando attacchi sei 9, come ti ho detto sempre, capito? Ma vedi la differenza, Gianni 9 che ce l'hai vicino, lui 8, io a me addirittura 3 con la stessa radio, perché sono molto più lontano, poi quella radio sorda com'è. Va bene. Vai già. Posso? Ma potrebbe essere lo smitter, perché adesso ve ne dico una. Appena ho preso questo apparato, no, rispetto agli altri normali baracchini, lo attacco con l'antenna esterna e Claudio mi arrivava a 9.95 da casa. Ho detto no, non esiste lo smitter di questo apparato, sia del 3009 display rosso, sia quello display blu e sia il Geopix 2000 col frequencimetro, era cecchissimo. Ho praticamente basato su quello del Kenwood, il 9, no? Per esempio una persona tipo Luigi Vulcano che al Kenwood mi arrivava 9, ho regolato lo smitter di questi baracchini sul 9, capito? Luigi Santiago 9, l'ho regolato con questi baracchini 9, allora ha cominciato a segnare i segnali alti, li segnava degnamente, i bassi però vanno interpretati, tipo Santiago 1 di qua corrisponde al 5, Santiago 2 corrisponde al 6, Santiago 3 corrisponde al 7, quindi probabile, siccome è molto simile, che lo smitter di Franco sia simile, però in realtà i segnali sono più alti, per esempio se Claudio è 6 dovrebbe essere 8 e mezzo in realtà, però bisogna vedere, ripeto, se a distanza di tempo se i smitter sono uguali o che nascono secchi. Quando ho preso l'Albrecht 5008 sono andato in macchina a piazzare i segni, Gianni deve arrivare 9 o più di 9, no? Dalla macchina, mi arrivava a Santiago 5 col 5008, quindi l'ho regolato subito, perché anche quello era una cosa indegna, proprio li tarano male di fabbrica questi Smith, li tarano molto molto male, anzi non li tarano proprio. Un mistero, già, no, da anni c'era un segnalone qua, no? Già, non è un problema quello, arrivi quanto è Luca che ce l'ho molto più vicino, capite? Molto più vicino, arrivate uguali, e c'è un varco tra me e Marco impressionante, non lo so, ha un segnalone, l'unico che mi arriva, perché c'è Antonello, Roberto e Marco, comunque i segnali lì. Quelli che trasmettono, beh, poi non contiamo gli altri che non trasmettono, però i segnali più alti sono Antonello che ce l'ha attaccato, Roberto viene, Antonello e Roberto sono molto equivalenti come segnali, poi c'è Marco con questo segnalone che da sempre, con 4 watt, sì, il giorno, no, quando c'avevi il 140 mi arrivavi 9,40, 9,40 pieno, sempre, sempre 9,40 mi arrivavi, è un segnale allucinante. Guarda, io quando salgo sul tetto, avevo fatto quel video del terrazzo, io credo che quei palazzi lontani che vedo all'orizzonte sia proprio la tua zona, io sono convinto che quella che vedo è la tua zona, perché è la più alta, la più visibile, quindi noi siamo a portata ottica, proprio ottica, le due antenne si vedono, magari col binocolo ma si vedono, perciò arrivi tu bene e io bene, tutto lì. Ma anche a Gianni vedo io, la zona di Gianni la vedo io, la zona bassa di via Baldetta, la vedo, capito? Vedo la zona bassa di Coso, di Franco, tutta quella parte lì la vedo io da sopra al terrazzo, non da qua, la vedo, capito? Quindi vi vedo tutti perché non ho niente, Sassari è sotto, io sono sopra. Il problema è vostro, a salire verso di me, è lì il problema, però con te c'è qualcosa, non lo so, allucinante, hai un segnalone. Oh, ma Gianni, mi è calato da quando non aveva messo il radiale, non mi ricordo, c'era stato un qualcosa, ma è di poco era calato, però il segnale è sempre quello già, 9,25. C'è stato un periodo che superavi anche il 25, però dipende cosa usavi, forse col Magnum. Ah ecco, col Magnum già mi arrivi 9,30. Io adesso vi saluto, dai, che devo andare a portare a te, se no tu che stiamo cugnato vuole andare, dai, c'ha ragione. Ci sentiamo, dai, a domani, buona serata e buon continuo con SEO. Ciao a tutti. Aspetta, non te ne andare, quanti metri cavo hai? 25, beh, non sono poi tanti, però guarda, guadagneresti qualche dB mettendo l'H155, che rende come il 213 ma è sottile quanto il tuo. Certo, 25 non sono molti, si può trascurare, credo. Va bene, già, buona passeggiata col cane, buon tutto. È entrato qualcuno che sta frusciando, chi è? Io non c'è niente, quello. C'è un giorno, adesso mi sono ricordato, Colmagno arriva a Santiago 9.30. 9.30 col Magnum arriva, senza lineare, senza nulla, quindi è questione di potenza sicuramente. Ho 27 metri, 3x9 è 27, quindi non cambia nulla. Va bene, avanti Fra, ciao Gian, buona passeggiata, io già ho fatto. Avanti Fra. Ehi, a capo, ciao Gianni, mi ha ascoltato la prossima. E così come ti arrivo, Fra? 9 più 5, sì, così. Così sono alla prima attacca, Come sempre, come ti do il segnale col K, con 4,40 mi arrivi 9 più 5 attaccato. Guarda così, 1, 2, 3. Così stai leggermente saturandosi, quasi 9 più 10. quindi meglio a uno, dai. Ah, va bene a 1, 9-5 è un ottimo segnale per quell'antenna, e a voglia. Infatti devo accordare, man mano che ho messo di potenza te dovrei accordare. C'è un break, sta tutto innescando, chi è? Claudio, tu che sei alto, guarda che c'è uno che sta tutto innescando. Adesso vediamo chi è, avanti? Ah, Vanni, sei tutto a frusci, buonasera. Ehi, una volta, però, Vanni, è come il più forte di sorso, che è la pantera. Oh, yeah, yeah. E beh, come stai? No, sei quasi 9 qua, è che sentivo questo fischio, capito? Non c'è nessun problema. Vai benissimo, alla grande, non problema, alla grande, capito mi hai? Cosa ti volevo dire, oh, Vanni? Vabbè no, ti telefono, non ti dico qua. Prima di se avevi trovato la scatola, mi sembra che ce l'avevi, mi ha detto che ce l'avevi. Il 756, il manuale ce l'avevi anche? No, l'avevi tenuta tu lì, che era in alto sopra. Ho detto, quando ti viene bene, toglila. Capito? Perché lo devo spedire per fare un aggiornamento. E quindi glielo voglio mandare nella scatola sua, ma non adesso, ma non ha più tempo che l'ha fatta la radio, capito? Per quello te lo sto dicendo. E poi mi volevo leggere qualcosa. E l'importante è andare a tutto bene, Vanni, al buro, l'ho detto, lo s'arrangiani. Va bene, un piacere averti ascoltato, fatti sentire ogni tanto, entra Buru Franco, ogni tanto faccio una giacciarata con tutti i baracchini, capito? Ci fa piacere. Ciao Vanni, saluti a casa, dai, ci sentiamo alle prossime, vai Marco. Via. Ciao Vannino, ben sentito, meno male che te l'ho tirato fuori, dai. Nega. Quindi Claudio, avevo notato queste analogie col Kenwood, quindi 9 è uguale al Kenwood, adesso tranne qualche piccolo cambiamento, no? Poi ho notato, col Kenwood vedevo questi segnaloni e con questo vedo segnali bassi. È lo Smitter che è tirchio per i segnali sotto il 9, quindi Santiago 1 di qua corrisponde al 5, Santiago 2 al 6, Santiago 3 al 7, Santiago 4... No, Santiago 4 no, praticamente il 3 e il 7, il 5 sarebbe Santiago 8, il 7 sarebbe Santiago 8 e mezzo, il 9 e 9, capito? Lo devo interpretare così, me ne sono accorto, ho detto, ma come mai queste differenze? E hanno detto che se tu vuoi lo Smitter che segni giusto i canali, i segnali, insomma, da 9 in giù, bisogna mettere un diodo, mi pare al germanio, bisogna cambiare un diodo della ricezione, no, della sensibilità dello Smitter. Una volta fatta questa verifica e tarato lo Smitter con l'iniettore i segnali, allora i segnali se li segna bene, però poi ti falsa quelli alti, capito? Quindi preferisco tenerlo così, tanto ormai so come leggerlo questo Smitter, te capi? Ma a me o a Franco stai dicendo? A te, e anche a Franco, dai, è uguale. No, io non ne ho baracchini starati, Marco, io col Galaxy è perfetto. Ho detto poco fa, arrivi con lo stesso segnale che arrivi col Kenwood, non ce n'è problema, anche Gianni. Però Gianni mi arriva più forte col Magnum, capito? Mi arriva più forte col Magnum, liscio, capito? Liscio mi arriva più forte col Magnum, forse è quello che io sto confondendo. Mentre Franco è perfetto, Franco mi arriva 9,5 quando attacca con quell'antennino di plastica e Santiago 8 staccato, capito? No, il Magnum, cioè il Galaxy è perfetto, no? Non devo toccare niente, se devo toccare. Vai Fra. Credo, perché mi stiamo aspettando, e l'aria usciva alle 8, poi anch'io vado a cenare, per quello sono ancora in radio, perché aspettiamo a lei, e dopo spengo tutto, che domani io mi alzo presto e poi no, mi guardo un po' di TV, capito? Avanti Marco, ciao Fra, salutami Anna, vai Marco. via. Ciao Franco, ci sentiamo le prossime. Sì, anche qua ho notato che nonostante abbia tarato il 9 giusto, i segnali sono falsati, sono molto più bassi della realtà, però ho imparato a leggerlo guardando il Kenwood come paragone. Te l'ho detto Claudio, solo lo smitter del Kenwood io rimpiango, solo quello. Per il resto con la mia voce non è adatto, gira gira neanche ho la voce di Gianni, tu sei l'unico che col Kenwood esce divino, vabbè anche, sai chi se la cava bene, anche Cosa, anche Massimiliano, avete la voce adatta, capito? Sì, dallo a me. Natalino era quello che si assomigliava più di tutti a me, a volte ci scambiavano anche, a volte a me, ciao Natalino, sono Natalino, sono Claudio, ciao Fabio, no, sono Fabio, sono Alfa 1, no, Natalino lo porta bene il K, ma io adesso ne sto usando due di K, ok? E siccome il 60, un 60 l'ho dato, adesso poi mi deve rientrare, forse sabato me lo riportano, il 60 l'ho dato a Capri, capito? E quindi sto usando l'MB più 5 con uno dei K e lo porto bene lo stesso, certo la modulazione non è uguale al 60, però viaggia bene come questo lo stesso. No Marco, guarda che io vedo più lo smitter del Galaxy che quello del K, perché sia il 440 che il 430 sono uguali. Lo vedo di più questo, molto bello lo smitter che c'ha il Saturn Echo. Sì, diciamo che non era molto luminoso quello del K, almeno il 140 non era luminoso, infatti ha detto mamma, questa lucina di smitter, insomma anche a lei piacevano più i baracchini, perché sono cromati, luminosi, capito? K non le piaceva l'aspetto. Bene, bene, comunque l'esperienza del K si può fare almeno una volta nella vita, tanto per farsi un'idea, certo il 430 credo sia il migliore, è il più difficile a trovare, perché se tu vai a vedere i siti, trovi tutti 140, 440, 450, che però il 430 non ne trovi, perché chi ce l'ha se lo tiene. No, infatti io ce l'avevo, tu immaginati che ce l'avevo quando ho dato uno... ne ho dato due di 140, cioè avevo 240, 680, 440 e 430, mi sono tenuto il 440 e il 430 e adesso li ho dati tutti, adesso di nuovo ho 2 440 più 430, allucinante, vabbè, capitato, e ce l'abbiamo doppio, vabbè, ma intanto è in partenza, 430 non si tocca, no. Speso una barca di soldi per farlo revisionare tutto. Non si tocca, non si tocca. Adesso sabato vado a ritirarmi l'altro 60, capito? Così lo rimetto al suo posto. Posso usare uno e l'altro, dai, già lo sto usando anche il 30, però devo togliere il 60 dal 40, metto nel 30, non mi piace così a me, mi piace un microfono per ogni radio, il Galaxy c'ha l'MB più 5, il Coso c'ha l'MB più 5, il DAC c'ha l'MB più 4, tutti i microfoni sono abbinati. Capito, no, sta cosa di stare cambia cambia, a me non mi piace, ho lo spazio Marco, quindi lo faccio volentieri, infatti quando ci avevo, perché poi ho cancellato tutto da QRZ.com, perché non mi sono proprio eliminato del tutto, quando parlavo con HF, ho detto, tutti quei microfoni c'è, sono tutti collegati, tu guarda, se controlla, conta le radio, ogni radio c'ha un microfono. Però caspita, vabbè tu dici non ho più voglia, se no forse in te avrei fatto attività in HF e ha voglia. Insomma, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Ma io ho il pane e i denti anche, perché grazie a Dio sul tetto ci sono le antenne buone. Già sto girando, già sto facendo girare, già sto usando ogni tanto, però no, la passione non ce l'ho più, Marco. Magari mi ritorno così, ma non ce l'ho più. Le antenne sono buone. gente esperta e sono antenne buone, ottime, funzionano molto bene, pagate anche un po' di quattrini. Quella dei 6 metri, la 5 elementi di 6 metri, la pick up mi è venuta a 600 euro, l'altra era 700 e Marco mi aveva fatto fare lo sconto. Poi c'è il rotore della IAS G450, tutto completo, lì 400 euro secche, poi c'è tutto il sistema, poi lascia fare, c'è dei soldi, vabbè, pazienza. È andata così, ma non rimpiango niente perché sto benissimo, al mio posto, tranquillo, senza avere problemi con nessuno e i tempi sono cambiati. Cazzo, è già passato un anno e mezzo, ma non pensare sia passato un giorno. Eia, eia, eia. Ma quanto mi hai detto, un'antenna direttiva per i 6 metri 600 euro, ma è molto grande allora. Aspetta, 600 euro. Poi per quella banda pinciala dei 6 metri. C'è una 5 elementi della PKW, vai a guardartelo. Apri il sito della PKW, è grande come antenna. Molto grande sono le antenne, sono 8 metri di braccio nella 3 elementi, 8 metri, quasi 9 metri è quello dei 10, il braccio dei 10. E sono antenne grandi, grandi, grandi, infatti lo spazio che occupano è enorme e io vabbè, ce l'ho lo spazio, quindi non rompo le scatole nessuno, è che l'ho detto proprio fa, la mano l'ho dovuta mettere sull'altra punta perché non c'erano altri posti, capito? Sì, io non ci vedi quella di Elio che mi pare 6 elementi, sì, ho 7 elementi uguale alla mia, la Tonia va alla zona e poca manna, avevo 7 metri di boom, già. Questa ne ha 5, mi pare, 5 metri di boom, quindi. Va male, altro che bene, di là i pesi, i lampadi, un'altra gabbituria, a mangiarsela i corvi e quei cacchio di uccelli di merda, come si chiamano quelli piccolini. È un peccato perché non usate, sai, piano piano invecchiano, poi la cacca un po' corrodemi alla lunga, perché quelli si mangiano pari che si mangiano cemento. Un vero peccato. Vabbè. Natalino, buona cena se devi cenare, se ci sei ancora. Già c'è. Ho fatto la foto, mi ha tolto tutto. Ho messo quel baracchinetto che ci ha fatto sentire l'altro giorno e il rosmetro. Boh, mi ha fatto bene. E la Giudito entra, un altro messaggio ha detto entra in radio. Provocheggialo, in modo che ti mandino l'esco radio e poi vediamo. Tu c'è il baracchino omologato, c'hai il rosmetro attaccato, non c'hai altro, vediamo cosa succede. Sono curioso, guarda. Io sarei entrato proprio a provocarli. Ma loro potrebbero dirgli a Natalino, e beh, la colpa è sua perché l'antenna è troppo bassa. Capito, datemi la possibilità di sollevarla. Ma è possibile, non sto chiedendo la luna, no? Datemi la possibilità di sollevarla. Se io, senza toccare niente, l'antenna non si muove da lì. Se a me mi danno la possibilità di andare, ok, con un tubo, togliere quello che c'è, innestare e rimettere, tanto c'è i cavallotti, l'antenna già la conosci, sfidare l'antenna dai cavallotti, stacco il piede, la sfido, l'appoggio, innesto l'altro tubo da 2 metri, ok, rimetto l'antenna, metto 2 tiranti e me ne sto scendendo, poi rifacciamo la prova. Sono convinto che non disturba a nessuno, perché quell'antenna è a 50 centimetri dal muro. Eia. Comunque quell'apparecchio che ha la Tarino, non so se sia omologato. Sì, è un piccolo veicolare 5 watt, però se di vecchio tipo ci deve essere la targhetta che dice omologato Ministero PT, se è nuovo tipo, nuova omologazione, ci deve essere scritto tipo CE0341, CE06 eccetera. Vorrei vederlo dietro come col bar, perché se no gli presto il mio, gli presto il Polmar, come si chiama, è come il Lafayette Zeus, uguale, Polmar, no, non me lo ricordo, vabbè, quello è omologato al 1000%. e anche il filtro proviamo. Proviamo le tutte. Poi se vogliono chiamare, il corso lo chiamino. Voglio proprio vedere fin che punto si riesce a migliorare la situazione, fino a quale punto. Fino a quale punto puoi migliorare? Vedere se si elimina qualche disturbo. Poi glielo chiederò a Natalino se c'è scritto, se c'è la vecchia omologazione, le nuove CE03 eccetera, o 06 eccetera, e se no non è omologato, allora non bisogna nemmeno farglielo vedere agli organi di controllo. Facciamo vedere quello che c'ho io, che tanto non lo uso mai quello, serviva solo per la concessione, per farlo vedere. Anzi, da un po' che non lo provo, speriamo che vada tutto bene. Oh, non riesco a mandarti la foto per intero, in due volte te l'avevo fatta, allucinante. Non ce la fa a prenderla, no, col telefonino, di gante lunga. Una foto? Ma di cosa? Sono a radio. Sì, ma me l'hai mandata tante volte, dai. Me l'hai già mandata un paio di volte, credo. No, come adesso? No. Dini, dai, con calma me la mandi, dai, divisa in due, fai due foto, parte destra, parte sinistra. No, ti vuoi provare tutti i microfoni in fila? Veglia, ma io mi fido, Claudio, mi fido, lo so, non c'è bisogno che mi dai la prova. Certo, l'MC60 è il non plus ultra per quegli apparati. E beh, è il loro microfono, dai. Ah, ecco, sì, sono riuscito a farla. Allora, questa e questa, ok. Deve trovare una tutte e due. Sì, sono riuscito a farla. No, adesso è più ordinata, più precisa. Il 430 l'ho dovuto spostare dall'altra parte perché purtroppo c'ho nuovamente altre due, sono tutte le linee complete, è un casino. Eia, mi falla bella, non la fare mossa e falla bella ferma la foto, così si vede meglio in dettaglio. Eia, oh, con Natalino ci mettiamo d'accordo. Questo porco giù del fame. Adesso stesso, hai attaccato un cigarro? No, è caduta una bottiglia sul piatto, ha fatto un po' di casino, che c'era un residuo di roba da mangiare. No, niente di grave, meno male non ho bestemmiato di peggio. Sì, ci metti un accordo, mi offre un caffè, attacchiamo quello lì ed entra a modulare. Se lui vuole chiamare, lo chiami, però si paga l'intervento, non è che lo deve pagare Natalino. Se è a pagamento, tu niente ne sai, è sempre a pagamento l'intervento, o no? Marco, ti ho mandato la fotografia, guarda se è omologato. Sì, prendo il telefono che ce l'ho nell'altra stanza. Sì, c'è del vecchio stampo, l'omologazione c'è. Cioè, perlomeno a me così mi aveva detto, tutti i baracchini in vita ci sono omologati. Anche se sono di vecchia, proprio vintage, sono di vecchia omologazione, capito? Io c'avevo la KB23, lo stesso, non c'era niente scritto, però avevo chiesto a questo amico della postale, ma no, tutti i baracchini vintage, di vecchia generazione, sono tutti omologati, vecchia omologazione. Vediamo se Natalino me la manda, ecco qua, ancora non è arrivata, ma arriverà. Aspettiamo fiduciosi anche quella di Claudio, che qua la connessione è un po' balorda, lo sai. Ti dico solo che la spia, no, sullo smartphone della linea Vodafone è sempre a manetta. Sempre a manetta, a fondo scala. Questa Rewind 1, 2, 0, è proprio un segnale incoerente, solo che costava di meno Wind, perciò io l'ho presa. Fiscali ti faceva pagare tre volte tanto, ma i miei che non so Gonassis. Oh, già non dico che l'ho mandata a fare in quel paese a Tiscali. No, io ce l'ho a 3. Mi trovo benissimo, 5 euro al mese pago, figurati. Mi faccio soci dopo un mese, c'erano 90, 96 mail c'erano, figurati. rischierei troppo caro, assolutamente. Io per quello che devo fare una cannonata, me l'aveva fatto Maurizio, un impianto, questa cosetta qua, ne vado più che bene, ma benissimo. Questo computer è nuovo, una scheggia, l'altro era un carraggio vecchio, era sempre inceppato. Eia, Natalia l'ha mandata, qua ancora nulla. Se ti ha detto che te l'ha mandata, allora quel cacchio di telefono c'hai tu. Ecco, mi sono arrivate tutte, sia di Claudio che di Natalino, adesso guardo. Adesso ci sta, ma è già da caricarle, mamma mia, mamma di turchi. Ma come mai, perché non hai connessione? Sì, qua non prende bene, allora aspetta che forse ho omologato. Allora, apro la foto di davanti, la ingrandisco, è un Goldatex, sì, Goldatex 4008, è bello vecchierello, Adesso vediamo un'altra foto, un attimino. Sì, ma l'ho chiesto a questo ispettore della postale, ma è tutti vintage, erano rimasti nella vecchia omologazione, Marco, capito? Allora, ma in Corea, Goldatex 4008 omolog, sì, Prote, perché non PTT? Vabbè, omolog, Prote, DCSR, 2414-06-31 del 3789. Beh, omologo vuol dire omologato, ma questo protocollo non mi è familiare, perché dovevano scrivere semplicemente omologato Ministero PPTT, non saprei, siamo un'omologazione estera questo. Questo prot DCSR 2/4/144 mi sembra un'omologazione esterna. Comunque dai, grazie all'accordo, usi quello mio e il filtro, voglio proprio vedere cosa ne esce. Giochiamoci l'ultima carta a questo punto, vediamo. Sì, un'omologazione ambigua, perché io ce li ho omologati nello stesso periodo, è un po' diversa la scritta. Sì, ma ti dà l'anno, anch'io ce ne ho uno così, e c'è l'anno, è vintage quello, capito, dell'89, ed è una vecchia omologazione, è omologato, ce l'ho anch'io un vintage così, mi pare che sia dell'88, e c'è scritto 88, evidentemente l'omologazione era così, allora non c'era, allora c'era la direzione compartimentale posta e telecomunicazioni, ti ricordi? Quindi magari le omologazioni erano così, non è come adesso. Comunque Dell è italiano, Dell 3 07 89, quindi presumo di sì, dai. Da me c'è scritto diverso, vabbè, solo c'è scritto diverso, adesso te lo dico. C'ho qua la RAM 48 SX che è dell'89. Allora, aspetta. Allora, omologazione numero DCS/2/4, sì, già è così. Qui c'è un numero lungo del 15289.8 articolo 334 del codice PT. Comunque sì, è simile, già omologato, dai. Sì, Marco, te lo sto dicendo, ho chiesto a questo ispettore capo e mi ha detto che le vecchie radio, quindi le vintage, sono tutte omologate. C'è un'omologazione degli anni che sono uscite, capite? Quindi quello è omologato, tranquillo, è omologato. Eia. Non ricordavo questo protocollo, prot DCSR, sarebbe protocollo DCSR e quelle numeri lunghi, non me lo ricordavo, ma c'è, quindi ho omologato, dai. Non resta altro che mettere quel filtro allora e provare, se funziona bene, se non funziona pazienza, dai. Ma tentare non nuoce. Certo, se avessi la moto, porco Giuda, vabbè, Giuda si può dire che è traditore di Cristo, non è una bestemmia, se l'avrei portato con la moto, mannaggia. Comunque ci passo spesso lì, una volta allora, prima o poi te lo porterò, mi fermo e busso e te lo porto. Allora, vediamo le foto di Claudio adesso. Scusa, è arrivata mia figlia, poi è arrivata mia moglie, qua sono messi a ciacciarà, non ho compreso un accidente. Comunque, ti ripeto, L'omologazione è quella, perché prima era direzione compartimentale, poste, telecomunicazioni, omologavano così le radio. Però c'è la data e il DPR è quello, c'è anche la data di matricolazione che è l'89, figura di due. Quindi ha ragione Alessio che praticamente i vintage sono tutti omologati. Non tutti, perché avevo all'epoca l'Ixtal 23 canali e non era omologato, nonostante i 5 watt e 23 canali, non era omologato perché era americano, capito? Quindi non tutti, solo quelli omologati sono omologati, quelli non omologati non lo sono, eppure la vintage. Sì, vabbè, ma diciamo che su 100 possono essere 98 omologati e due no, dai. Però quello che c'è a Natalino lo sto usando adesso è omologato, perché c'è la matricola dell'89, quindi omologato. Anche il mio era così, HB23, c'era scritto la stessa cosa, è l'anno di matricolazione, che mi pare fosse l'87 addirittura. Eia, eia, allora, questo sì, sto guardando, eia, eia, aspetta un po', quello all'estrema destra è un... 430. Cosa Marco? Quella parte all'estrema destra. Cos'è un 430? Dalla parte destra sì, quello del 430 l'ho voluto spostare, poi tutta la linea completa che ho avuto sono due 440 tutti con linea completa. E tutto il resto. Avete i microfoni tutti in fila. Eia, eia. Vediamo, uno è l'MC60, l'altro non so cosa sia, l'altro ancora è già nel pochi microfono, uno per ogni apparato. Ecco, l'MB+5, più 5, sì, vedo due manopole più 5, e anche l'altro. Ehi, mi pare che non ce ne siano altri. E in fondo dove c'è il 430 c'è il più 4 e il tanno il più 2, non lo vedi il tanno il più 2, da tavolo. Sì, il Tarder con quella forma particolare, sì, eccolo qua, ce l'ho davanti. È vero, sì, quello è il più 4. Il più 4. Il più 4 nuovo è che ha quella forma, senza quel giallino sulla manopola. Il Tarner c'ha una forma particolare della capsula. Purtroppo non se ne trovano più microfoni come quelli, tutti spariti sono. Non vengono più prodotti, cioè li trovi usati, ma usato lo possono manomettere, possono fregarsi la capsula, capito? Mangia fianco del 430, c'è lo standard, lo stesso quello con base, quello VHF, lo stesso. E poi sotto c'è la linea di Kraft, quel microfono, il Turner, quello cromato, quello è tutto una Shire, cromato. E quello della linea di Kraft, non la vedi la linea di Kraft, la valvolata? Quella con le bande, con lo scorrimento verticale lì, c'ha delle... l'indicazione delle bande. Sì, sì, l'unica radio bande verticale, scorrono le bande verticali. Quello per gli amplificatori, la vedi il control box della IAS, il commutatore elettronico, non lo vedi a fianco all'MB+4, quello è il commutatore elettronico della Meritron, quello lì, a 5 commutazioni. Io cambio la commutazione, la 1, la 2, la 3, e cambia sopra, cambia automaticamente sopra perché è alimentato. Scende un unico cavo, capite? È comandato da quello. Eia, eia. Eia, control box, sì. Bello, bello. Potresti fare faville e non hai più voglia, dai. Si è passata la passione. No, in questo momento sto bene così, Marco, davvero. Sto 27 così, ma ogni tanto già mai sentito, entro, se sento qualcuno che posso salutare in V o in U, entro, lo saluto come mi hai già sentito, no? Però no. Passione di fare attività vera e propria, ma io non l'ho mai avuta quella passione. Non mi interessava, capito? L'ho fatto solo per la retenzione delle radio e basta, più che l'uso. Però poi quando ho messo le direttive, allora era un'altra cosa. E da lì poi, insomma, messe le direttive è passata la passione. Vabbè, ma verrà di nuovo, dai, piano piano. Si cambia. Ho dai Marco lì, che è arrivata mia figlia, sono le 9, io ti saluto e vado a pappare, ok? Saluto chiunque fosse sul canale 10 in ascolto. A domani Marco, grazie alla compagnia, grazie alle due chiacchiere, abbiamo un po' chiacchierato anche oggi. Adesso, se Dio vuole, domani, dai. Saluta mamma, ci sentiamo domani, ciao. Cosa dice mamma di questa nuova voce? Le piace sempre The Voice oppure le piace più l'altra modulazione? Grazie, buona chance. Ciao Gianfra. Ciao, ciao. Adesso anche non ascolto, ti ringrazio. Sempre io saluto chiunque fosse in ascolto, perché giustamente ci sono tanti ascoltoni, quindi è doveroso salutare anche a loro, anche se non entrano. Va bene così. Ciao Gianfra, un abbraccio. Quindi Marco, cosa dice mamma? Sempre The Voice oppure le piace più il K? Beh, forse più il K, ma è la voce quello che conta, capito? Quindi per lei è la voce. Va bene, dai, salutala. Ci sentiamo domani Marco, che è pronta la cena, ok? Ciao a tutti, buonanotte, grazie, ciao. Eia, ciao Claudio, ciao anche a Natalino, buona cena. Ciao Gianfranco, ben entrato. Ciao Marco, buonasera. Eia, caspita, le 20.52, aspetta, quasi le 9, non me ne ero accorto, dai. Potevo entrare più presto, ci facevamo una chiacchierata, eccetera. E adesso vado anch'io, dai. Buona serata Gianfra, buon tutto. Ci sentiamo alla prossima, cerca di entrare un po' prima però, se no a quest'ora siamo tutti uccelli bosco. Già lo sai, io la forza da farà, c'è qualcosa da fare, qualcosa da, quindi quando si può si entra, oggi che sopra un saluto. Sì, io. Va bene, là, ci sentiamo le prossime. Buona serata, buon tutto Gianfra. Ciao a tutti gli ascoltoni, dai, anche io faccio così. Comunque Natalia è quello. Ci è omologato, dai. Confermo, anche da me c'è scritto sarebbe protocollo di CSR, non, tutti quei numeri lunghi che non ricordavo, quindi sei a posto, dai. Ciao Gianfra, buonanotte, buon tutto, dai, ciao a tutti. Ciao, buona cena, oppure buonanotte, ma lascio buona colazione, ciao. Ehi, a quando alle 4 a dormire, mamma mia, la serata è lunga. Come si vede che non ti svegli presto, sì? Io ho il jet lag, sono un fuso orario probabilmente americano, costa dell'est, no, New York, ma fra un po' arrivo alla costa dell'ovest pure. Ma non ti posso neanche dire da parte, perché non mi piacerebbe. Ehi, va bene, ciao ciao, notte. E ciao, buonanotte.